E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. ...800-24-0024 per chiamarci. Questa è La Zanzara, La Zanzara estate fino alle 20:30, e questo è un altro mondo dove entrate, dove potete dire la vostra e dove può succedere qualsiasi cosa. Luca, ci sei? Certo, già sono arrivato io. Luca Telesi, in collegamento da Roma, in attesa dai di un collegamento... Dai gonfiabili di Fregene. Da dove, da? Gonfiabili. Dai gonfiabili di Fregene. Siamo in attesa di un collegamento molto speciale che fra poco avremo, forse no, con Santo Domingo, con Luciano Gaucci. Con lui. Ma il telefono fa un po' le bizze, e allora contentati di sentire cosa ha detto oggi Cicchitto. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere. Chi è causa del suo mal? Quando ci si infila sul terreno della richiesta di dimissioni che è stata fatta in modo continuativo nel corso di questi ultimi mesi nei confronti di autorità di governo, è evidente che si mette in moto un meccanismo rispetto al quale poi ci stanno delle controrepliche, delle controrisposte se emergono delle situazioni non chiare. E quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ieri se la prendevano con Berlusconi, oggi diversi giornali se la prendono con Fini, non c'è niente da stupirsi. C'è una campagna di stampa in corso oggi da parte del giornale e di altri giornali, ma ce n'è stata un'altra nei mesi passati contro Berlusconi, noi ce la ricordiamo. E quindi quando si mettono in moto questi meccanismi bisogna poi vedere i risultati di queste campagne e i prodotti seri, non seri che essi si determinano. Non cambierà. Luca, siamo alle solite, anche oggi tensione ai massimi livelli tra Finiani e PDL. C'è questa richiesta di dimissioni, i Finiani dicono Berlusconi deve smentire i suoi perché altrimenti le cose si fanno complicate. Insomma, ormai è un gioco a chi, insomma, no, a chi resta in mano il cerino. Sì, a me pare che sia uno strano paradosso, l'immobiliarismo come segno di decadenza dei tempi, non la casa come il grado zero della politica che abbatte gli ideali e allora edifica beni cartolarizzabili. E in questa strana lotta, ripeto, l'abbiamo detto tante volte, ma io penso che sicuramente Fini abbia commesso un piccolo pasticcio, però se quello di Fini è un pasticcio vorrei sapere come vanno giudicate tutte le altre case della Casa delle Libertà, che sono, come dire, uno spettacolo abbastanza deprimente. Il ministro a sua insaputa, la palazzina di Via dei Prefetti, ormai un elenco degli ascoltatori della Zanzara conoscono a memoria. Cioè sembra veramente che il primo obiettivo di chi ha fatto politica in alcuni ruoli del PD sia stato quello di assicurarsi un patrimonio. Però è anche vero che se qualcuno si erge a paladino della legalità, della moralità, eccetera, eccetera, poi alcune cose possono tornare indietro, no? Come nel caso di Fini, o no? Ma io poi in tutti i casi che abbiamo detto siamo sicuri che Fini sia stato così spietato. Forse è stato troppo buono, forse ha sopportato troppo. Se lo vedi dall'altra utenza, Fini ha sostenuto le leggi al persona. Appunto. Non ha detto una parola lui contro Scajola né nessuno dei suoi, quindi forse è stato troppo tenero. Non la vedo questa equazione, cioè Scajola è stato cacciato dalla rabbia popolare degli elettori del PDL, questo è un fatto, non c'è stato neanche, e lo ricordo perché lo cercavamo, non c'è né stata neanche una parola di Fini o di qualcuno dei suoi, quindi Cicchitto ancora una volta si è inventato una panzana. Ma ha ragione D'Agostino, presto esploderà un inferno. Roberto D'Agostino, D'Agospia. L'intervista al Corriere della Sera. E Dago ha delle fonti che sono profonde e sempre ben radicate, quindi sicuramente qualcosa può accadere. Nelle rogatorie internazionali chi c'è dietro queste società? 18:10, 800 24 00 24, primi ascoltatori della serata, sempre in attesa di un collegamento che per adesso non c'è. Vogliamo metterci in collegamento con questa casa? Facciamo sentire il telefono che squilla, la casa a Santo Domingo di Luciano Gaucci. Alessio da Pisa, buonasera. Buonasera, ciao. Dica, Luciani. Dica. Semplicemente su Sfini, trovo, come dire, meritata la situazione che sta vivendo, perché lui non si ricorda, ma il buon Robespierre ghigliottinava gli altri in nome della legalità, della moralità, dell'etica, e adesso poi si è ritrovato ghigliottinato. Fini conosce poco la storia, la sua proposta politica è totalmente inesistente, è semplicemente un tecnico della politica. Un attimo solo, sentiamo Gaucci se ci risponde. Trasferita a un sistema di correo de voz 80943. E via, non risponde ancora Gaucci da Santo Domingo. Però Luca, l'ascoltatore da Pisa non ha torto. Quando uno fa il puro, poi trovi uno più puro di te che ti bastona, che ti taglia la testa. Siccome questo robespierismo di Fini non c'è stato. Beh, insomma, se non c'è stato il robespierismo suo, c'è stato il robespierismo dei suoi, la legalità, eccetera. Sto dicendo una cosa e ti sfido a contestarla. Cioè nessuno dei Finiani ha detto una parola sulla casa di Scajola, neanche uno. Beh, hanno chiesto subito la dimissione di Scajola, come no? Come peraltro allora, diversi dirigenti del PDL, per carità. Nessuno dei Finiani disse una parola, me lo ricordo perché li cercammo, e nessuno parlò perché erano ancora in una logica di appartenenza alla coalizione. E quindi dicevano non possiamo aprire un problema con Scajola. Ma è un fatto, eh? Sì, però adesso sembra, è bello questo stereotipo, Fini, feroce, cattivo, ma io non sono un difensore di Fini. Però mi ricordo le cose, bisogna avere una memoria almeno a 3 mesi per saperlo. Mirella da Padova, buonasera. Alessio, voleva aggiungere qualcosa? Un attimo solo, signora. Alessio, come voleva concludere? No, semplicemente che non sono d'accordo con quanto dice Luca Telese, che quanto assenza di proposta politica, quella di Fine è totale come assenza. I suoi manifesti in Lombardia, sia la legalità, via gli affaristi della politica, sono veramente qualcosa di incredibile, da Striscia alla Notizia o da Scherzi a Parte, forse è meglio. Ma su tutto questo, Luca, su questo Alessio ha ragione. Come si fa dopo tanti anni a fare manifesti del genere alla Di Pietro, su, fuori gli affaristi della politica? Ad Alessio, che mi sembra una persona intelligente, io non capisco molte storie del centrodestra che criticano Fini e dicono lui fa tanti discorsi sulla legalità, e poi preferiscono chi fa dei discorsi contro la legalità oppure chi sorvola sulla questione morale. È questo che non capisco. Alessio, risponda. Di destra, che non gli piacciono discorsi contro la legalità. Vorrei sapere chi è che fa i discorsi contro la legalità. Mi citi una persona che fa i discorsi contro la legalità. La legalità è un dato talmente acquisito che scriverlo è ridicolo. Io sono d'accordo con Alessio al 100%. Parlare di legalità è talmente generico che non capisco cosa significa. Cioè, metterlo in un manifesto pubblicitario. Di legalità sulle questioni che abbiamo detto, ad esempio futuro, sul caso Cosentino. Queste sono le idee, l'intelligenza di Alessio, futuro. Ma secondo lei era giusto che un sottosegretario destinatario di una richiesta di arresto per associazione camorristica restasse al suo posto? Alessio? Sì, è giusto. Allora, perfetto. Allora vedi che c'è perché, bisogno di parlare perché, di legalità. Perché è giusto che Cosentino restasse al suo posto, Alessio, secondo lei? Assolutamente giusto, perché, come dire, la politica si sta giocando adesso su questa forma di criminalizzazione dell'avversario. La magistratura ha tempi biblici, mentre l'infangatura, tra virgolette, è immediata. Rinunciare a una posizione politica soltanto perché qualche giornale avversario politico, dichiaratamente avversario politico... Beh, non c'è solo qualche giornale, c'è un'indagine, una richiesta d'arresto avallata dalla Cassazione, nel caso di Cosentino, non è che ci sono solo i giornali. Nel caso di Cosentino c'è anche un'indagine, siamo d'accordo, però non possiamo nasconderci dietro il dito che una parte della politica italiana si gioca anche attraverso le magistrature, le sentenze, la delegittimazione dell'avversario. Questo è il gioco politico, ma su Fini la differenza è che Fini ha una carica istituzionale, ha scelto la politica, paga le conseguenze di aver scelto anche la strada politica dallo scranno istituzionale, quindi non ci trovo niente di male che Fini si dimetta, che Fini, come dire, resista. Sì, no, ma ho capito, lei è passato da un discorso all'altro, però Alessio è tosto, Luca, insomma, non fate ragionamenti. Tosto, ma voglio chiedergli se si ricorda come hanno votato i Finiani a gennaio sulla richiesta di arresto di Cosentino. Contro, credo, no, Luca? votarono contro. Contro la richiesta di arresto, certo. Difesero Cosentino, quindi questa immagine del Fini tagliatore di teste è un'immagine non corrispondente alla realtà. Povera pace. Caro Luca, voglio farlo riascoltare perché l'intervento ieri sera del deputato Lucio Barani, nuovo Partito Socialista, in realtà iscritto al PDL, è stato strepitoso. Tu a un certo punto hai abbassato il telefono, non ce la faccio più. Perché? Perché, guarda, oggi ho intervistato la Moroni perché trovo un altro elemento di imbarbarimento della politica che una persona che fa politica da quando ha 15 anni sia considerata una specie di sgallettata da uno che la conosce bene e che persino rivendica di essere amico di suo padre. Allora è assurdo che se uno si mette contro il leader, i servi del leader si inventino delle diffamazioni per tirarlo giù. Effettivamente la posizione di Barani è bizzarra, perché Barani non riconosce alcuna dignità alla posizione della Moroni, ma dice ha cambiato idea o comunque ha aderito al gruppo di Fini semplicemente perché si è innamorata di qualcuno, per un amorazzo, per una relazione, per un rapporto. Sentiamo. Credo che sia la questione sentimentale, come una giovane donna può avere degli innamoramenti, come anche le questioni di Fini, che adesso non più il garante come terza carica dello Stato lo deve, come ha messo lui, e gli hanno capito i familiari la buona fede, forse anche il portafoglio. Come per Fini, sono questioni sentimentali, dice Barani, cambia idea per sentimento, una ragazzina capricciosa, sempre Barani. L'ha cambiata Fini, l'idea, conoscendo la famiglia Tuttani, può essere successo anche a Chiara, che è una ragazzina, si sta comportando da una ragazzina capricciosa. Tutto qui, insomma, lei non aveva mai fatto politica prima, la faceva il padre, lei è stata messa in politica sulle orme del padre. E poi una cosa abbastanza incredibile, i socialisti erano tutti eterosessuali, Craxi aveva gli anticorpi per resistere alle pressioni delle donne, sentite. Insomma, noi socialisti, come si suol dire, ci piace, siamo più eterosessuali che altro, se lasciamo ai radicali altre culture, ma Bettino Craxi era stato un maestro in questo campo, e aveva gli anticorpi, non era come Fini che non ha gli anticorpi, si sono visti, che non era preparato agli innamoramenti, cioè lei teneva il guinzaglio, invece sembra viceversa, credo, dopo le dichiarazioni del Presidente della Camera, credo che sia lui al guinzaglio delle donne. Quest'ultima è bellissima, Luca? È meravigliosa, ma anche questa è tutta contro la tradizione socialista. Esatto, che esatto. Sui diritti civili, sulla bioetica, insomma, è incomprensibile, ma un delirio che non ha senso, perché ancora una volta è doppio pesista. Se uno è così feroce con la Tugliani, che cosa dovrebbe dire di Papi? Cosa dovrebbe dire di Papi, dici tu? Alessio, non vorrei che lei fosse d'accordo, ma io non sono d'accordo, mentre prima ero d'accordo con lei. Su Barani che ne pensa? No, su queste dichiarazioni non sono d'accordo, fatto salvo l'unico pezzettino di dichiarazione nel quale dice che, nel quale il socialista dice, l'ex socialista Barani dichiara che Fini da un punto di vista psicologico mi pare francamente fragile, questo io non conosco Fini, ma penso proprio che sia così. Vive il complesso di inferiorità non soltanto nei confronti di Silvio Berlusconi e di tutti coloro che sono più grandi di lui, ma probabilmente anche delle donne. Però donne, mi scusi Alessio, questo mi sembra esagerato adesso. Sarà esagerato, è una mia impressione. Però da un punto di vista caratteriale non mi pare un grande leone. Lo conferma il comunicato di smentita di due giorni fa, nel quale mette sulla graticola il proprio cognatino, dai, un po' di coraggio, sei presidente della Camera, non sei un signor nessuno. Tu. Però anche qui, Luca, c'è la tentazione che spesso prende anche noi giornalisti e osservatori a fare in quale operazione? Ad attribuire agli uomini politici delle posizioni solamente perché influenzati da qualcuno, no? In particolare influenzati da una donna. Ora si attribuiscono a Fini tutti questi cambi repentini di posizione sui più svariati argomenti alla relazione con Elisabetta Tugliani. Questo sarà pure vero, non lo so, però un po' mi sembra ingiusto. Non solo, ma devo dirti una cosa, conosco Fini da tanti anni, non è un politico con cui sono mai riuscito a entrare in empatia, perché è un po' misterioso, no? Ha un carattere strano. Però devo dirti che, se so tutto quello che ho visto, il famoso litigio dell'auditorium, rimasi proprio impressionato e ci voleva un po' di coraggio fisico. Cioè, da solo, contro una platea di 300 persone ostile, lui si alzò e gridò, interloquì. Intanto, casa Gaucci a Santo Domingo. Oh, squilla! Sempre casa Gaucci a Santo Domingo. Venito al correo de voz, diga. E niente. Después del tono, su llamada será. E vabbè, avevamo un appuntamento, ma succede, Gaucci. È imprevedibile a Santo Domingo, come insegna Lucci. Come insegna Enrico Lucci. Chissà, esce al volo, va a fare un bagno. Il biografo di Gaucci, il biografo televisivo di Gaucci. Mirella da Padova, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Dica. Io mi sono posta alcune domande, nel senso che non riesco a capire come l'onorevole Fini possa credere che noi italiani pensiamo che quello che lui dice sia vero, quando afferma che lui non sapeva niente, che il cognato abitasse nell'appartamento di Monte Carlo. Abitasse, e poi il cognato come ha fatto a sapere di questo appartamento in vendita. Sono i punti ancora in discussione della vicenda di Monte Carlo. Il cognato ha preso anche una provvigione, visto che ha fatto da intermediario. Vabbè, questo non lo sappiamo. E poi, insomma, io come italiana mi sento un po' presa per il naso, perché l'onorevole Fini non può pensare che gli italiani siano così stupidi di credere. Allora, o lui è bugiardo o lui è sciocco. Allora, un presidente della Camera o bugiardo o sciocco non è che sia il massimo. No, visto che lui sì, ho capito Mirella. Luca, da parte di anche ma del fatto queste informazioni sì. Sensate, no? Sì, però che cos'è però che manca? Chiedere a Mirella sì. Se lei era altrettanto severa e meno credula quando Berlusconi raccontò che era stata la festa ai Noemi perché c'era stata una tempesta e casualmente si era trovato un collier in tasca da regalare. Però questo è un po' benaltrismo, eh? No, problema è a chi crediamo, a quelli che ci sono simpatici o a quelli che ci sono antipatici? Abbiamo lo stesso criterio per tutti? No, ma certo che non c'è lo stesso criterio. Questo... Io non ho, voi non mi avete chiesto cosa pensavo io di Berlusconi, io adesso stavo intervenendo su Fini, parlando di Fini. Glielo chiedo. Ah, lei vuole sapere cosa pensavo no, io di Berlusconi? Sì, di alcune vicende di Berlusconi, cioè Telese vuole sapere se non c'è un doppio pesismo nella vicenda di Fini, cioè se si attacca Fini semplicemente perché magari Berlusconi è più simpatico. No, ma io guardi, Fini, intanto penso che la contessa Coleoni si starà rivoltando nella tomba, perché lo spirito di questa donazione, di questa che lei ha fatto al partito, non credo che fosse questo. Ma questo no? Non lo so, guardi signora Mirella, perché effettivamente questo, la contessa voleva lasciare i soldi al partito per una buona causa, i soldi sono stati incassati dal partito. Però a parte questo, quello che a me dà fastidio come italiana, io sono di destra, a me dà fastidio che Fini pensi, l'onorevole Fini o anche altri politici, che noi siamo così sciocchi che quando loro raccontano delle bugie così evidenti, capito, ci crediamo. Perché pensava. Due sono le cose, o lui nella vicenda di Casoria lei pensava la stessa cosa, è uno sprovveduto, o lui è un grande bugiardo che mente sapendo di mentire, e va bene, però in alcune vicende che riguardano Berlusconi, chiede Telese, lei la pensava allo stesso modo? Di Berlusconi? Sì, in alcune vicende in cui magari c'erano delle incongruenze o c'erano delle contraddizioni. Sì, io la pensavo allo stesso modo. Quando ci sono delle incongruenze, niente da fare. Sono evidenti, se sono evidenti, sono evidenti. Però il discorso, Luca, la ringrazio Mirella, è sempre lì. Se uno si erge a puro, se uno si erge a onesto, a paladino del partito, della legalità, eccetera, poi qualsiasi cosa, anche piccola, gli viene fatta pesare più delle altre, non c'è niente da fare, non si sfugge allora, da questo. Il paradosso sarebbe che se uno non si erge a paladino della legalità può fare qualunque cialtronata, può raccontare delle balle. In parte sì, è più, diciamo, viene più perdonato, ma sto facendo un'analisi, non sto dicendo che è giusto così. Certo. No. È così, uno può sparare, siccome è abituato a spararne di tutti i colori, allora gli si fa passare tutto. Se uno invece dice io sono il più bravo, sono quello più onesto, cioè ti ricordi il partito degli onesti di La Malfa, sì? Come andò a finire durante Tangentò? Un avviso di garanzia. Un avviso di garanzia che non era nulla, distrusse all'epoca il Partito Repubblicano. Perché era diventato il Partito degli Onesti, si era autoproclamato Partito degli Onesti. Marilena, ancora una signora da Roma, Casa Gaucci, fatemi sentire lo squillo ancora. Voglio sentire lo squillo di Casa Gaucci. Squilla, Luca Teresi in diretta dai Gonfiabili di Fregene. Sono emozionato. Niente. Veniva al correo de voz, viva. Gaucci, rispondi. Fra poco però Benedetto della Vedova, uno dei finiani, tra qualche minuto, dopo la borsa. Abbiamo ancora la signora Marilena, però, in diretta con noi, sempre da Roma. Pronto? La Zanzara si divide tra i Gonfiabili di Fregene, questa sera, dove Luca Telese è in compagnia del figlio, tra la casa di Santo Domingo di Gaucci, se ci risponde. Fra poco Benedetto della Vedova, che chissà dov'è, credo al mare da qualche parte, e poi la platea, come al solito, degli ascoltatori. Marilena, prego. Sì, buonasera. Senta, volevo dire questo. Io sono una sostenitrice del centrodestra, ho votato alle ultime elezioni Berlusconi, tappandomi il naso perché veramente so benissimo che ci sono grossi limiti anche in quello schieramento. Però, visto che a sinistra c'è il nulla, ho votato a destra. Però io veramente sono rimasta basita per il comportamento di Fini. Non mi aspettavo, quando ha vinto stasera è un coro antifiniano. Fra poco avremo della Vedova che rimette tutto in pari. Anche della Vedova, guardi, è stata una grande delusione. Perché? Ma è una delusione? Perché senta, mi faccio dire questo. Quando alle ultime elezioni ha vinto il centrodestra, mi creda, io sono stata felicissima, litigando con mio marito che non è andato a votare, perché dicevo finalmente hanno questa bella maggioranza, la votano, perché sicuramente come governo sì, qualcosa ha fatto, sinceramente. Dico, perlomeno il nostro paese riesce ad avere delle riforme strutturali, delle riforme poche, saranno poche, ma perlomeno saranno qualcosa. Titolo del TG2. C'è anche un italiano tra le vittime delle alluvioni che hanno devastato il Kashmir indiano, altri 8 connazionali intrappolati nel fango, situazione drammatica anche in Pakistan e in Cina. Sono critiche ma stabili le condizioni dell'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, da ieri ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, oggi la visita di Gianni Letta. A Roma due giovani sono stati ascoltati per la violenza sulla turista americana avvenuta in una discoteca sul Lungotevere, convalidato il fermo per il minorenne accusato dello stupro di Capri. È morto in Svizzera un giovane italiano che stava facendo snowboard su un ghiacciaio, su una pista che avrebbe dovuto essere chiusa, è finito in un crepaccio. Studio aperto, qualche titolo. C'è un italiano tra le vittime delle alluvioni in India, sarebbe un giovane il cui corpo non è ancora stato recuperato. Altri 8 sono bloccati nella zona disastrata del Ladakh, famosa per i monasteri tibetani e il trekking. Critiche ma stazionarie, è diffuso il primo bollettino medico sulle condizioni dell'ex presidente Cossiga, ricoverato da ieri in rianimazione al Policlinico Gemelli. Ci colleghiamo in diretta. L'ex marito le aveva dato fuoco durante una lite. Dopo 15 giorni di agonia, la donna, madre di 3 figli, è morta in ospedale a Catania. Capri, convalidato il fermo delle 17enne accusato di violenza sulla turista francese. Sono come sono, sono cosa sono, sono come sono, sono come sono. Ieri alla Zanzara, come Telese sicuramente ricorda, il sindaco di Verona, Tosi, su Morgan. Oggi di Morgan, più che riconoscere la musica di Morgan, che dubito che in molti la conoscano, oggi di Morgan si conosce quell'esternazione decisamente brutta e fuori luogo, nella quale disse a una nota rivista quando sono depresso uso la cocaina. Ecco, siccome questo è oggi il suo biglietto da visita, e allora farlo esibire sarebbe stato rivangare quel messaggio assolutamente negativo. Morgan, cattivo esempio, eccolo qua. Le osservazioni come quella di Morgan recentemente me ne vengono in mente gran poche, perché veramente tant'è che appunto ci fu un dibattito molto vivace anche in quel momento, e tant'è che è stato escluso da Sanremo, che non è una cosa da poco, e perché appunto è stato un fatto di particolare gravità. E ripeto, non ho memoria recente di qualcuno che abbia detto una stupidaggine del genere, ma in modo così grossolano, perché non è, ha detto ero disperato, ha detto siccome sono depresso uso la cocaina, come se fosse un medicinale contro la depressione. È una mostruosità. Questo Tosi è esagerato, Luca, non ho mai sentito nessuno che dice una mostruosità del genere. L'abbiamo detto ieri. L'abbiamo detto, ripetiamolo però, è sempre meglio ripetere alcune cose. C'è qualcosa che non va in questo neo presunto autoritarismo paternalista, cioè io sono il singolo della città, io decido chi canta e chi non canta, e se moralmente non mi piace lì dietro le porte delle arene. Sì, tra l'altro con una mezza contraddizione, perché forse se fosse invitato in un altro teatro veronese Tosi non avrebbe nemmeno i poteri per vietargli la piazza, ma io sono sicuro che se Benedetto Della Vedova, che è deputato di Futura Libertà, che saluto, buonasera. Eccoci qui, se fosse sindaco di una città, una piazza a Morgan, se fosse previsto naturalmente, non gliela negherebbe, o sbaglio Della Vedova? Morgan fa il cantante, è un bravo cantante, ha avuto un'uscita che ha pagato duramente, ma non credo che vada interdetto dall'attività musicale, mi sembra un fuor d'opera, insomma. Cioè, se lei fosse sindaco, insomma, non troverebbe nulla di strano, fosse sindaco di una città, piccolo o grande che sia, fosse previsto un concerto di Mori, non è che negherebbe l'autorizzazione a utilizzare quello spazio pubblico per quelle affermazioni sulla droga, sulla cocaina, là, sull'antidepressivo, peraltro contestate. Ma, guarda, ripeto, al di là delle espressioni e delle frasi di Morgan, fa il cantante come tanti altri, è libero di farlo, e quindi non ci sarebbero ragioni per negare la piazza a lui come a tutti gli altri musicisti. Ma lei queste uscite ogni tanto della Lega come le interpreta, sul piano della morale, sul piano della come le inquadra? La Lega ha nel corso degli anni ha avuto fasi, che ne so, di una durezza anticlericale mai ascoltata da nessuno nella politica italiana, fasi invece di riscoperta dei valori Dio, patria e famiglie, magari patrie anziché patria, ma veramente scommettono sul fatto che ci sia un sentimento diffuso di una cultura un po' reazionaria. Io continuo a pensare che il Nord Italia, io sono nordico, che il Nord Italia sia fatto in modo diverso sul piano sociale, sul piano delle dinamiche sociali, buone o cattive, ma insomma siamo un paese molto più europeo di quanto non lo descrivano. E io poi in fondo, ma su questo, come dire, non c'è la prova del contrario, credo che i successi elettorali non siano legati a questo genere di cioè posizione. Non porta voti attaccare Morgan dicendo che è il simbolo del male, che ha fatto una sciocchezza e che dunque non può cantare a Verona, non porta voti secondo lei? Guardi, secondo me no, nel senso che poi uno va a vedere tutti i sondaggi anche sugli altri temi etici eccetera, insomma non sono su quelli che si spostano gli elettori, secondo me manco gli elettori leghisti, insomma poi magari... Luca, non sei d'accordo? Come mai? Ti sentiamo poco, però adesso ti richiamiamo, adesso meglio, mettiti meglio. Credo che una cifra di questi anni, a destra e a sinistra, sia stata l'invenzione del nemico, l'uso, come dire, delle tifoserie politiche come collante identitario. E dunque in questo caso, nel caso di Morgan è la stessa cosa? Beh certo. Cioè i drogati da una parte, i drogati da una parte. La distruzione della famiglia, pensa a tutti i nemici che alla fine ai nemici musulmani, turchi, comunitari, poi ai nemici drogati, poi ai nemici che non vogliono federalismo. Adesso Luca, dobbiamo richiamarti perché non sentiamo nulla, sei disturbatissimo. Voglio chiedere a Della Vedova però una cosa. Lei è uno di quelli che sostiene che Fini sulla vicenda di Monte Carlo ha dato delle spiegazioni esaurienti. Ora, non lo dicono, non hanno scritto solamente Libero, il Giornale, anche il Corriere della Sera. In realtà ci sono alcuni passaggi delle spiegazioni del presidente Fini che non hanno convinto del tutto. Quello che riguardano l'interessamento del cognato come mediatore, del perché poi la casa sia finita in affitto allo stesso Tulliani. C'è bisogno, secondo lei, di ulteriori spiegazioni? Lasciamo perdere la questione della magistratura. C'è bisogno di ulteriori chiarimenti su questo punto? O lei ribadisce no, Fini ha dato tutte le spiegazioni che doveva fare? Perché non è che sono rimasti perplessi solamente con le loro campagne, il Giornale, Libero, eccetera. Anche il Corriere della Sera ha detto che c'è ancora qualcosa di oscuro, o no? Ma guardi, io non conosco le vicende di AN, però sono di parte, nel senso che sto dalla parte di Fini, naturalmente. A me sembrava che nella nota che Fini ha diffuso ci fossero tutti gli elementi, compreso il fatto che il Tulliani, adesso vado a memoria, potrei sbagliare, ma insomma, sì. Compreso il fatto che il Tulliani avesse, nella nota c'è scritto, no, che Tulliani ha, non so se, come dire, messo in contatto lui AN con le società che erano interessate ad acquistare. È proprio questo il punto, cioè perché si è interessato di questo immobile, uno dei punti sollevato peraltro dallo stesso Fini, insomma. Ma no, Fini dice questa cosa e poi dice che con grande disappunto ha appreso che il cognato abitava lì, però io penso che nel momento in cui, non so, io ho fatto il tesoriere di un grande piccolo partito come quello radicale e ho avuto questo onore, non mi è mai capitato di dover vendere un immobile all'estero, ma fosse capitato a me, se arriva uno e mi dice guarda che io conosco qualcuno che può comprarlo, ora poi vedremo cosa c'è sotto, se c'è sotto qualcosa, ma altrimenti la cosa in sé, visto che non era un segreto, non era un'operazione segreta questa, cioè che la casa c'era, da quanto io ho ricostruito, ho capito parlando con i colleghi, non è che lo sapesse solo Fini, lo sapevano in tanti, nel momento in cui c'era da venderlo, probabilmente, siccome era una cosa di cui si parlava perché non era un segreto, se il cognato gli ha detto guarda io ti trovo io chi ve la compra, se questo l'ha trovato, se il prezzo è quello, è congruo e non ci sono altri giri sotto, sì, può essere fastidioso, tant'è che Fini ne sta pagando duramente. No, ma fastidioso, non solo fastidioso, cioè il fatto che il cognato si sia interessato come mediatore è un qualcosa comunque di anomalo rispetto, non sto dicendo, non sto parlando. No, ma no, cioè, voglio dire, probabilmente col senno di poi era meglio trovare un altro mediatore che magari, impiegarci 6 mesi in più, andare sul posto a fare un annuncio sul giornale, però in sé… Cioè lei non immagina che magari il cognato lo abbia ingannato, prima ha fatto da mediatore in una società in cui magari c'erano delle persone, non lo so, non lo sappiamo. No, ma questo potrebbe anche essere successo, io difendo allo stato delle mie conoscenze, sì, in modo senza alcun problema difendo l'operato di Fini, cioè se anche uno mi dice ah però Fini non può anche darsi, però io se mi metto nei suoi panni, se poi uno dice ah guarda io ti trovo chi è interessato a comprare la casa, cosa gli dici? No, perché insomma il vero problema. Questa è una leggerezza però per un dirigente politico che amministra, che è responsabile anche, non solo lui naturalmente, delle finanze di un partito, il fatto di far interessare il cognato, che è estraneo alle logiche di Alleanza Nazionale. Questo potrà ammettere che si tratta di una leggerezza o no? Non lo so se è una leggerezza, sicuramente la sta pagando duramente, secondo me troppo duramente come tale, e va bene, fa parte del gioco, però sai, poi sono quelle cose in cui al momento uno dice ti trovo io chi te la compra, ok, il mio problema da titolare di AN sarebbe, sì, il prezzo che viene pagato è un prezzo congruo. E secondo lei era congruo? Vabbè, da quello che si sa, da quello che lei può sapere. Io come dire, ne so quanto lei, so che era bilancio per 450 milioni secondo una perizia fatta dalla società qualche anno prima. che gestisce quel condominio, e qualche anno dopo viene venduto al 33% in più, cioè anziché 450 milioni, 600 milioni. Dopodiché io sto a questo, può essere giusto o sbagliato, non sono un esperto immobiliare. Ho capito, ma oggi Libero per esempio sono scrive... Sono stato a Monte Carlo una volta in vita mia. Non conosci i prezzi a Monte Carlo, che peraltro si conoscono facilmente anche non andando a Monte Carlo. Luca, ci sei? Sì. Qui c'è una cosa curiosa, ci sono due ex radicali come Della Vedova e Capezzone che erano nel PDL fino a pochi istanti fa. Oggi o ieri Capezzone ha detto fini, si deve dimettere, c'è una grande ondata popolare, eccetera, eccetera, e Della Vedova che gli risponde anche in maniera abbastanza dura. Della Vedova, è vero che fini ha detto, c'è stata un'intervista, posso credo oggi. Posso dire una cosa su questo? Sì, dimmi. Purtroppo, anzi per fortuna per Della Vedova, il derby dei radicali è stravinto da lui. Vabbè, questo perché, tu sei fazioso su questo, però. No, non è la posizione, qualunque posizione si abbia, diciamo, è lo stile che conta. Siccome Della Vedova non è mai stato ferocemente antisinistra, non è mai stato dogmatico su nulla, invece Capezzone, ce lo ricordiamo con l'occhio a pesce che tuonava contro il centrodestra, contro Berlusconi, ecco, con lo stesso occhio a pesce con cui tuonava contro il centrodestra, adesso Capezzone tuona contro il centrosinistra, contro Fini, contro i nemici di Berlusconi. Quindi è l'occhio a pesce che fa la differenza. Abbiamo il cervello acceso da una parte e l'occhio a pesce dall'altra. L'occhio a pesce di Capezzone e il cervello acceso dall'altra. Vabbè, insomma, Capezzone incasserà questa cosa. Fra poco ci rimetteremo in collegamento con lui, perché come al solito è caduta la linea. E Benedetto Della Vedova, che non so dove si trovi, a Roma, in vacanza, dove si trova Della Vedova? Sono nella mia Valtellina, in montagna. Ah, fantastico, quanto la invidio. Le montagne della Valtellina. Perché dice che tutti gli ex dell'Ansia Nazionale sapevano in un'intervista ad Affari Italiani? Come mai? Lo smentiscono? La russa dice che non sapeva nulla. Ho fatto troppe interviste per i miei standard, quindi esatto. Magari ho anche detto una fesseria. Ultimamente, negli ultimi giorni, evidentemente vi date un po' il cambio. Futura Libertà parla lei in questi giorni. Comunque, vabbè. Ma no, ripeto, da quel che so io, appunto, non era un segreto, poi che lo sapessero tutti oppure no, cioè dico tutti individualmente, è un modo di dire, mettiamola così, se ho esagerato, se mi sono fatto prendere la mano, era un modo di dire perché da quel che ne so io, appunto, non è che fosse un segreto, si sapeva che c'era questa casa, anzi credo che qualcuno sia anche andato a vederla tra coloro che potevano essere... Però Pontone dice che riferiva solo a Fini, e che Fini era il Pontone, era l'ex tesoriere, diciamo, di Alleanza Nazionale. Vabbè, ma al di là di questo, non entriamo nello specifico. È vero, come lei ha riferito, che Fini è incazzato nero col cognato, con Tulliani? No, io... Leggo da quello che riportano le agenzie. No, ma infatti questa era l'intervista che ho dato ad Affari Italiani, in cui dicevo che, leggendo la nota di Fini, dove Fini dice... potete immaginare il mio disappunto quando ho saputo che la casa e io mi sono limitato a tradurre, insomma, dal linguaggio per cui lei non è a conoscenza del fatto che Fini è incazzato nero, può intuire, non... posso intuirlo conoscendo Gianfranco a partire da quel passaggio, potete immaginare il mio disappunto. Senta, è vero o no, perché si leggono tante cose, no? Che Elisabetta Tulliani ha così tanta influenza sulle posizioni di Gianfranco Fini, o comunque in generale i Tulliani, e lei in particolare, sulle posizioni di Gianfranco Fini, sì o no secondo lei? Ma guardi, conosco Fini da un po' di tempo, non mi sembra che sia uno che abbia bisogno di... diciamo così, di farsi dettare la linea. D'altra parte le cose che lui fa oggi, io le leggo in assoluta e pensa oggi e dice oggi, il modo di interpretare una destra, che piace o no, secondo me è il modo più consono a una grande destra liberale e moderata europea, che è il modo di Gianfranco Fini, mi sembra che da quando lui partì con Fiuggi al passaggio che andò male, ma che politicamente già in nuce conteneva l'esperienza successiva, cioè quello dell'Elefantino, quando Fini si presentò, AN si presentò nel 99, figuriamoci, in una lista in cui c'erano, e non nascosti, ma come operazione politica, Mario Segni e Marco Tardas, per capirci. È chiaro, dal mio punto di vista, e non credo che allora conoscesse la Tulliani, non lo so francamente, nel 99. Questo è un percorso che ha una sua... Che non ha nulla a che vedere con le sue vicende sentimentali. Ma insomma, io direi proprio di no dal punto di vista politico. Senta, un'ultima cosa che riguarda, se vogliamo, le vicende di questi giorni, il modo in cui i media affrontano la vicenda di Fini. Devo dire che in una sua intervista a Repubblica lei dice che si stanno usando nei confronti di Fini dei metodi stalinisti. Altri hanno parlato di bastonatura mediatica, altri ancora di squadrismo. Ora, francamente, mi sembra nel caso di Monte Carlo può essere utilizzata questa parte delle espressioni. Insomma, io credo che si tratti di un'inchiesta giornalistica, certamente per alcuni giornali. Ma guardi, non è il problema dell'inchiesta giornalistica. Lei giustamente sottolineava che anche un giornale con tutt'altro aplomb rispetto al giornale pone delle domande a Fini, certo. Pone delle domande e Fini non a caso ha risposto. Poi il Corriere ha detto che non è, che c'erano ancora, non è che ha detto non hai spiegato niente, ha detto resta un punto quello di cui abbiamo parlato prima, un punto ancora da chiarire. Dopodiché però chi dà una questione che potrà avere anche una sua rilevanza, però non è che il Corriere ci sta facendo una campagna di 15 giorni e non è che il Corriere 10 mesi fa con la stessa con il giornale, per capirci, 10 mesi fa non so quanti, con la stessa enfasi e la stessa potenza mediatica sparava in prima pagina gli scandali a luci rosse di Fini. Ne ha più sentito parlare lei? No, ma su questo, quindi non è il scandalo a luci rosse di chi? Di Berlusconi, lei dice? No, di Fini. A un certo punto si ipotizzava anche quello, cioè è chiaro che è il continuo e soprattutto no, non è un articolo, una richiesta, è il modo, sono i titoli di scatola, sono tutti i titoli orientati, gli articoli orientati. Però il giornale è già da settembre dell'anno scorso che sottolinea la differenza di Fini, le posizioni diverse che ha preso Fini, che si allontana dal centrodestra. Un conto è la critica politica, nei confronti di Fini c'è stato un massacro, ha coinvolto tutto. Ripeto, ad esempio, io mi ricordo solo quello, poi ce ne saranno tanti altri, un presunto scandalo a luci rosse, lo scandalo nascosto a luci rosse, che non esisteva, tant'è che poi credo che sia durato lo spazio di un mattino e magari forse c'è anche... Dunque il suo accenno agli stalinisti era per il metodo? Ma sì, è perché della serie, tu non è che fai domande, tu picchi che tanto qualcosa resta, per cui... E dunque chi sarebbero gli stalinisti in questo caso? Il giornale? O Libero, il giornale? Belpietro e Feltri si comportano da stalinisti nei confronti di Fini? La campagna è una campagna, io questo dicevo, che risponde al metodo staliniano, calunnia, che qualcosa resterà. E questa è la cosa che secondo me ha questo sapore. Per cui tu parli di case, parli di Monte Carlo, dici chissà, parli del cognato e a prescindere da come si è svolta veramente la storia, ottieni il risultato di mettere in difficoltà una persona solo con questi tre elementi: cognato, casa, Monte Carlo. Poi l'inchiesta giornalistica ci sta, hanno pure fatto uno scoop, mica discuto questo, però ripeto, la campagna di quel tipo là, il tipo di campagna non era necessaria, insomma. Dopodiché è inutile lamentarsi come fanno loro delle campagne che fa Repubblica, perché se poi alla prima occasione contro il nemico interno anche questo ha un vago sapore di altre epoche, di altri regimi. Contro il nemico interno tu fai una campagna che è ancora più dura di quella che gli altri fanno nei confronti dei tuoi amici, questo a me non piace. Poi, senta, le chiedo l'ultima cosa e poi la lascio alla Valtellina, ed è questa. Io sono convinto che quando succedono delle cose, in politica succedono delle cose, poi bisogna trarne le conseguenze. Ora, al di là del fatto che certamente c'è un ruolo istituzionale, è un fatto che si sia formato un embrione di un nuovo partito politico, chiamiamolo come vogliamo, c'è un gruppo parlamentare, l'embrione di un nuovo movimento. Quando il capo di questo movimento è anche il presidente della Camera, è una situazione francamente anomala. Si potrebbe intravedere, c'è la possibilità che Fini dentro di sé pensi di potersi dimettere, al di là del fatto che voi dite non ci dimettiamo, Fini non si deve dimettere, per la vicenda di Monte Carlo. Io non parlo della vicenda di Monte Carlo, sto parlando di una questione politica. Cioè Fini pensa, siccome la situazione politica è cambiata e anche la sua posizione personale, che non è solo quella di presidente della Camera, pensa di dimettersi o no, secondo lei? Ma non penso che sia non penso che lui pensi di dimettersi, se mai mi chiedesse il consiglio gli direi che questo comunque si è creata una situazione in cui lui non può dimettersi, a prescindere da ogni altra considerazione. E perché? Ma perché rispetto a una campagna di questo tipo io credo che è legittimo a questo punto che la facciano, ci mancherebbe altro, facciano quello che vogliono, ma credo che a differenza di tutti gli altri casi, siccome qui c'è una spiegazione e c'è un punto di tenuta... Cioè il mandante di questa campagna secondo lei è Berlusconi? Mi auguro di no, credo che ci siano situazioni in cui chi fa... di compiacere senza necessariamente che abbia ricevuto. Cioè non viene da Berlusconi la cosa colpite duro, come qualcuno tra l'altro ha scritto nei giorni scorsi. Secondo lei viene da Berlusconi l'indicazione oppure c'è il fenomeno che ci ha spiegato prima? Non lo so, quindi io sono garantista anche nei confronti di Berlusconi e fino a prova del contrario non penso che lui abbia dato quest'ordine. Ripeto, dopodiché ci sono situazioni in cui uno sa che se fa alcune cose... fa un favore o compiace questo o quell'altro, ma ripeto, fino a prova del contrario, garantista su Berlusconi. Escludo che il presidente del consiglio editore abbia dato un mandato ai suoi media di colpire il presidente della Camera. Lei però prima mi ha detto una cosa interessante, anche soprattutto perché c'è questa campagna, a questo punto Fini non si deve più dimettere. Esatto, perché secondo me non, cioè, se non ci fosse questa campagna si dovrebbe dimettere in presenza della formazione di un nuovo gruppo parlamentare, di un embrione di un nuovo partito. Se non ci fosse questa campagna ci sarebbero le condizioni per dimettersi? No, però diciamo che se in un altro contesto uno può considerare più opzioni e scegliere, oggi Fini non ha opzioni se non una, quella di rimanere dov'è. Molto chiaro, grazie. Buonasera a lei. Buona Valtellina, 18.57 e 20, 800 24 00 24, qualche secondo prima del giornale radio e andiamo a Milano. Michele, buonasera. Buonasera, sono Michele da Milano. Io volevo dire che l'utilizzo, diciamo, di queste campagne non è nuovissimo, proprio nei confronti di Fini. Io quel siparietto surreale tra Gaucci e questa Tugliani l'avevo visto su Striscia la Notizia tempo fa. Sì. E appunto Fini mi ricordo che si era tirato, eccetera. Però Fini dovrebbe stare attento nel suo rapporto con le donne, perché mi ricordo in occasione dei referendum. Lei torna di nuovo sul rapporto tra Fini e Tugliani come elemento decisivo. Ma io direi che proprio la storia di Fini come uomo debole, cioè se arriva una spia russa di quelle dei film di 007, questo le dice tutto. Perché io mi ricordo che nel referendum della procreazione assistita avevo letto distrattamente che era uscito da un portone di Piazza Navona della Prestigiacomo che spingeva per un voto e lui aveva dato il suo voto in linea alla Prestigiacomo. E poi la moglie di prima, la prima moglie, diciamo, che mi ricordo che era un po' implicata, era un po' con la Lazio, ambienti di destra. Forse allora? Cioè lo vedo un po' debole con le donne, ecco. Michele, lei torna su questo punto. A lei sembra decisivo il rapporto tra Fini e le donne da un punto di vista politico? Numero di Gaucci, Santo Domingo. Un attimo, Michele, mi ascolti, Santo Domingo. Sentiamo. Gaucci ci risponda. 18.58 e 55 sono le 12.58 a Santo Domingo, ma Gaucci ancora non risponde. Vogliamo lasciare un messaggio in diretta? No, non lo lasciamo, lo lasciamo dopo. Intanto vi lascio al giornale radio. Siamo di nuovo qui, la Zanzara, un altro mondo, 800 24 00 24, un mondo in cui potete entrare e dire la vostra al numero verde, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it, i titoli del TG3. Pressing nel PDL per le dimissioni di Fini, Finiani manganellate da chi non vuole le regole, Famiglia Cristiana, italiani disgustati dalla politica. Casini, forte rischio di elezioni anticipate, prepariamoci, il PD maggioranza dissolta dai veleni, lavorare subito per l'alternativa. Il giudice del lavoro ordina alla Fiat di reintegrare 3 operai licenziati a Melfi, sindacati sentenza giusta dall'azienda, no comment. Anche un italiano tra le vittime dell'alluvione in Kashmir, altri 8 connazionali intrappolati nel fango, milioni di sfollati in Pakistan. Oggi sul litorale romano, ieri a Napoli, due ragazzi che si baciano scatenano proteste dei bagnanti anche al mare, un mare di intolleranza. A Maddaloni, nel Casertano, i cittadini contro un cementificio che sparge nell'aria polvere bianca e brucerà presto rifiuti, ci sta soffocando. Tania Cagnotto, medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da un metro agli europei di Budapest, nel solco del grande papà Giorgio. Va bene, scatti G24. C'è una vittima italiana nelle alluvioni in India, lo conferma la Farnesina. Conferenza episcopale italiana e famiglia cristiana contro il degrado politico e morale. Fini, Cicchitto, chi è causa del suo mal pianga se stesso, Bindi, attacchi strumentali. Gravi ma stabili le condizioni di Cossiga, ricoverato da ieri alla Gemelli di Roma. Reintegrati 3 operai Fiat licenziati a Melfi, provvedimento antisindacale. Stupro sul Tevere, identificati e ascoltati 2 ragazzi romani. Convalidato il fermo del minore accusato di abusi e lesioni a Capri. Pandemia o bolla di sapone? L'influenza A non fa più paura, lo conferma l'OMS. Un tuffo da un metro che vale l'oro, la Cagnotto sul podio più alto agli europei. La nazionale di Prandelli al debutto, occhi puntati su Cassano e Balotelli. Stiamo cercando da oggi alle 18 un nostro amico residente a Santo Domingo, un nostro conoscente, Luciano Gaucci, uno che negli ultimi giorni ha parlato e anche parecchio per motivi che stiamo cercando di scoprire e che volevamo sentire anche dalla sua viva voce. Ha parlato molto male di Elisabetta Tulliani e dell'influenza del clan Tulliani in genere su Gianfranco Fini, perché dice ne ha pagato le conseguenze. Noi ci ricordiamo di Gaucci in che occasione? Ci ricordiamo di Gaucci intervistato in maniera meravigliosa, era il 2008, la fine del 2008, da Enrico Lucci delle Iene a Santo Domingo. Nel paradiso dei Caraibi. Mazza, se sta una favola qua, Luciano. Ma che cazzo devo far fare ritornare in Italia? Ma la nostalgia è troppo forte. Roma mi manca. Eh? Roma mi manca. E che ti manca di più? A me mi piace di fare le passeggiate a Piazza di Spagna, a Piazza Venezia. Degli amici tuoi chi senti in Italia? Andreotti, il cardinale Angelini, il cardinale Zambri. Ma Andreotti era proprio amico tuo? Amicissimo. Andavamo a mangiare con la regina. Tu, Andreotti e la regina? Ma pure qua ti telefona? Sì, mi telefona lui e telefono io. Adesso chi è che ti piace come politico? Ma Andreotti è migliorato molto. No, Andreotti, Berlusconi. Ma tu come hai fatto ad arrivare a conoscere tutti questi? Quando stai nel giro conosci tutti. E una delle accuse che vengono fatte a Gaucci è di dire certe cose su Elisabetta Tulliani spinto da uomini vicini a Berlusconi. E questo era un Gaucci 2008 a Santo Domingo, quando era latitante. Infatti il servizio delle Iene aveva come titolo la storia di un, com'era, la storia di un grande latitante, un italiano latitante a Santo Domingo, una cosa di questo tipo. Poi Gaucci, sempre a Santo Domingo, 2 anni fa, alle prese con la guida nell'isola caraibica. Ora da Santo Domingo è sempre pronto a ripartire. Guardate che botta che gli do, eh. Ci ha fermato, state fermi. Sulla via del ritorno. Non avete paura. Lui ci ha fermato. Com'è nel suo carattere. A 200 andiamo adesso. Non resiste. Non fa cazzare a Luciano. Aiè. Luciano. Non sfiorata, oh. A divertirsi. E gli andiamo addosso, qual è il problema? Tanto si fa male lui, mica noi. Una forza della natura. Attento, qua c'è l'incrocio. Che si fregano dei motorini. Incontenibile. Sto andando contro mano, ragazzi, Implacabile. Mo superiamo in curva, eh. Che mi spiega come funziona. Ma qua ognuno fa come cazzo gli pare, mi sa. Questo bellissimo paese che lo ha accolto. È una repubblica che non ha regole. Ognuno se le fa per sé. La latitanza di un grande italiano, questa era Gaucci, ottobre 2008. Poi marzo 2010... ancora Lucci, ma con un Gaucci tornato in Italia, perché insomma gli avvocati erano riusciti a sistemare le cose e dunque niente più galera. Gaucci Luciano Gaucci è di nuovo papà. Il settimo figlio. Ricordiamoli tutti quanti i nomi, via. Riccardo, Alessandro, Federica, Isabel. Isabel. Leonardo. Come si chiama? Come? Christopher? E Beatrice l'ultima. E Beatrice. La capacità riproduttiva di Gaucci. C'è sempre sto misellaccio! È inarrestabile. Ma quando lo metti a riposo sto misellaccio? Eh? Mai. E adesso ulteriore disperato tentativo di collegarci in diretta con Luciano Gaucci. Venido al correo de voz viva. Después del tono, su llamada será facturada. Niente da fare, ma continueremo a riprovare, restate lì, fino alle 20.30. E poi domani, dopodomani, 19.22, 800 24 0024. Noi però non ci dimentichiamo mai di cosa? Dei consigli per l'estate, consigli di letture di Sestino Giacomoni, uno degli uomini più vicini al Presidente del Consiglio. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Eccolo, a Uno Mattina Estate, Sestino Giacomoni, uomo ombra del Premier, dire gli italiani dovrebbero portarsi sotto l'ombrellone il libro che glorifica i due anni di governo Berlusconi. Consiglio in questo mese di agosto come lettura i due anche anni di governo. Anche questo volume, due anni di perché governo. Perché ritengo che troveranno cose molto utili per accanto loro. Ai giornali di gossip. Accanto ai giornali del gossip. Allora la ringrazio, onorevole Sestino Giacomoni, PDL, e la linea va a Pierluigi. Mamma Rai, non ti abbandona mai, se lo vuoi. Viva Rai, quante battaglie nei corridoi. Andiamo a vedere questo volume, Due anni di governo. Questo è stato realizzato dalla Presidenza del Consiglio. Lei ovviamente ha collaborato alla realizzazione di questo volume. Quali sono i punti importanti? Mi sembra sono quattro a grandi linee. Guardi, la cosa divertente lo è che sfogliamo questo volume, le dico, la prima cosa che mi ha colpito è che ci siamo presentati. Lo sfogliamo insieme! Al giornalista che conduce Uno Mattina Estate. Un po' di teatrino, vai! Quello che c'è di oggi. Santanchè! Ormai non ha più la fiducia della Camera e deve dimettersi. Dopo le sue dimissioni si potrà aprire una nuova stagione politica, ma se rinunciano da subito, come da programma, al voto agli immigrati, alla cittadinanza breve, alle coppie di fatto. Bocchino, Berlusconi apre una crisi istituzionale. Bisogna riportare il confronto e lo scontro nell'alveo della politica per evitare una crisi istituzionale. Berlusconi, nel momento in cui da Presidente del Consiglio chiede le dimissioni del Presidente della Camera, rischia di avviare una crisi istituzionale senza che sappiamo quali possono essere le conseguenze per il Paese e anche per il Governo. Bisogna dar vita ad un percorso partendo da un vertice di maggioranza. Chi è causa del suo male? Cicchitto contro Fini. Quando ci si infila sul terreno della richiesta di dimissioni che è stata fatta in modo continuativo nel corso di questi ultimi mesi nei confronti di autorità di governo, è evidente che si mette in moto un meccanismo rispetto al quale poi ci stanno delle controrepliche, delle controrisposte se emergono delle situazioni non chiare. E quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Questo è il teatrino di oggi. Eugenio da Roma, buonasera, poi Emanuele da Siracusa, Renata da Milano, Gabriele da Bologna, Attilio da Sondrio, al numero verde, Eugenio, prego. Buonasera, volevo evidenziare una cosa. Oggi ho letto le vecchie dichiarazioni che faceva capezzone su Berlusconi, che mi pare le abbia pubblicate Fare Futuro. Sì, può darsi, non lo so. Credo di sì. Guardi, a leggere veramente fanno impressione, nel senso che... Non è la prima volta che vengono pubblicate delle frasi che Capezzone diceva su Berlusconi quando era nel centro-sinistra. Però vede, questo dimostra che il discorso della macchina del fango, del voler screditare, è un qualcosa ormai di massificato che dimostra proprio il bassissimo livello della politica. Scusi, che c'entra perché adesso la macchina del fango? Non ho capito. In questo senso... Chi è che sparge fango in questo caso? Beh, è evidente, il PDL ha intenzione di ottenere le dimissioni di Fini e quindi segue le strade disponibili. Ma non è che e dunque Fini... ordina a Feltri di bastonare Berlusconi direttamente? Guardi, io so che lei la vede diversamente, però consideri questo. Bossi diceva che il padre di Berlusconi era un mafioso, la banca Rasini riciclava i soldi della mafia. Allora? Fini disse con Bossi nel caffè. Berlusconi ha sempre detto tutto il contrario di tutto e si è sempre alleato. Questa è la dimostrazione che in politica, come dice Rotondi citando un democristiano fiorentino, le affermazioni dei politici valgono per quello che valgono, cioè valgono per i momenti in cui vengono dette e basta più. No, io questo non credo, perché in altri paesi, lei il giornalista quindi lo può riscontrare e osservare, quando ci sono queste dichiarazioni così improponibili, è difficile che un politico resti dov'è. Questo può darsi, però lei che metteva in rilievo le contraddizioni di Capezzone, prima anti-berlusconiano e poi berlusconiano, va benissimo, per carità, lei fa bene. Sì. Ma le stesse cose si possono dire di tanti politici, anche lo stesso della Vedova, sicuramente aveva delle parole di stima, esprimeva stima nei confronti di Berlusconi, adesso dice che il partito è diventato una monarchia in cui non si può più parlare. Ma è diverso, perché dire che... I toni possono essere diversi, certo. Ma quello è importante, perché io ho letto le dichiarazioni di Capezzone, sono veramente impressionanti, cioè sono dello stesso tenore di quelle che diceva Bossi sul padre di Berlusconi, sulla banca Rasini. Con questo cosa voglio dire? Che Fini, 6 mesi fa, non è che non era con la Tulliani, che la difesa di Fini sia poco sostenibile, chiunque, anche chi è finiano probabilmente lo capisce. Però la macchina del fango dove la sta? La difesa su che cosa? Sulla vicenda sulla di Monte Carlo? La casa, chiunque, anche un finiano in sì, privato. Lei dice la macchina del fango dove sta? La macchina del fango sta in questo, che è diventata strategia politica ordinaria. Cioè nel momento in cui Fini ha fatto una scelta, e poi se ne può discutere di qual è il motivo, si scatena la macchina del fango. E secondo me... Però mi scusi un attimo, Gianni, io questo non capisco. Perché quando si fanno degli articoli su Fini o i finiani, che certamente hanno uno scopo politico, perché alcuni giornali indagano più su certi ambienti piuttosto che su altri ambienti, su questo non c'è dubbio, si parla di macchina del fango. Al contrario, quando ci sono le inchieste, non so, dell'Unità, di Repubblica, eccetera, diciamo, gli osservatori neutrali non parlano nemmeno lontanamente di macchina del fango, ma di inchieste giornalistiche. Mi spiego almeno per il mio parere. Allora, prendiamo Brancher ha dichiarato che gli italiani ce l'avevano con lui perché l'Italia aveva perso il mondiale. Già questo... Sì, ma questo stiamo parlando di un'altra cosa, però. Che Brancher abbia commesso degli errori mediatici, non solo mediatici, non c'è dubbio. Non è un errore mediatico, prima di essere condannato. Ma io non parlo solamente della vicenda Brancher, Eugenio, io sto parlando di altri casi in cui dei giornali si concentrano in particolare sul centrodestra, su affari del centrodestra, su problemi... Ma ce ne sono, ne potrei enumerare tantissimi di giornali che si occupano in particolare di affari del centrodestra e nessuno parla di macchina del fango, ma si parla di inchieste. Da una parte invece si indaga su politici come Fini o su politici di centrosinistra e si dice invece che c'è la macchina del fango. C'è sicuramente l'elemento Berlusconi per quello che riguarda il giornale o per quello che riguarda le televisioni, ma insomma andiamo al sodo. Perché in alcuni casi si parla di macchina del fango e in altri casi di inchieste giornalistiche, democratiche, legittime, eccetera, eccetera? 19:30 abbiamo la borsa. Eccoci, 19:33, 800 24 00 24. Volevo capire se Eugenio intendeva concludere il suo intervento. Sì, Eugenio. Cioè, mi meraviglia che lei non comprenda veramente la differenza. Nel caso di Brancher, che come esempio lei non va bene, ma io le faccio esempio ma di io questo. Parlo in generale di campagne mediatiche, capito? Legittime da una parte che vengono considerate invece fasciste, staliniste dall'altra. Ok, allora io le faccio un esempio concreto. Brancher, è stato condannato. Ma ridaglio con sto Brancher. Ma no, io parlo in generale, allora, delle campagne mediatiche. Se lei vuole parli della campagna su Brancher, va benissimo. No, perché in quel caso, però, mi scusi, perché in quel caso la campagna su Brancher c'è, cioè, l'attenzione nei confronti, c'è, cioè, un processo, per carità, è diverso. No, si è concluso il processo, sì, veramente. Si è concluso in patteggiamento, naturalmente. Appunto, peggio, sì, ancora mi sento. Sì, no, ma Eugenio, ma non sto dicendo che Brancher è innocente o cose di questo tipo. Lo farà probabilmente in Cassazione, si vedrà. Sì, appunto, si vedrà. Eugenio, io sto dicendo un'altra cosa. In generale, da una parte alcune campagne mediatiche vengono considerate nobili, meravigliose, esempio di libertà di stampa. Dall'altro, solo perché c'è di mezzo un giornale che è di proprietà del fratello di Berlusconi, un altro giornale che è di area di centrodestra e un altro come Il Tempo, che è un giornale sempre area di centrodestra, anche se è romano, vengono considerati delle campagne di fango. Lei mi deve spiegare perché. Io lo spiego con Fini. Io non credo alla difesa di Fini, però le dico, ma chiunque se ne rende conto, chiunque sano di mente, quello non è un reato. Perché? Perché vogliamo dire che in Rai i direttori... Ma nessuno dirigenti... attribuisce un reato a Fini, no, nessuno accusa Fini di aver commesso un reato. È la macchina del fango, perché si è paragonato il caso di Scajola, di cui non si sa se sia un reato, si accetta. Ho capito, ma non c'è manco un avviso di garanzia nei confronti di Scajola su questa vicenda della casa, per cui di che reato stiamo parlando? C'è stato un forte sospetto politico di legami con un imprenditore che invece è indagato, quindi in quel caso le dimissioni erano non opportune, ma diciamo in qualunque paese civile anglosassone obbligatorie. Nel caso di Fini, perché Fini... No, Fini, mi scusi, prima... però sull'obbligatorietà delle dimissioni di Scajola... non sono d'accordo. Le dimissioni di Scajola erano naturalmente a quel punto inevitabili dopo quello che ha detto in quella conferenza stampa, in quella sciagurata conferenza stampa, e dopo una vicenda oscura come quella dell'acquisto di una casa di cui non si sapeva se era stata pagata una parte oppure no. Non c'è dubbio. Certo. Ora, i casi sono diversi, dunque è anche fastidioso questo, fare dei paragoni. Ma qui è la macchina del fango, perché no, scusi, proprio perché i casi sono diversi, è evidente che questa storia di Fini, ma si sapeva anche 2 anni fa, vuole che cosa? La Russa... Non stiamo parlando della Rai, stiamo parlando di un'altra cosa. Io le sto dicendo un'altra cosa, le sto dicendo che il potere, che si eserciti il potere... bene o male e anche creando cordate e lobby, non si è scoperto con Fini. Lo viene a dire a me. Perfetto. E allora, nel caso di Fini, è chiaramente una macchina di fango. Perché? Perché sicuramente Fini, potendolo fare, ha messo a disposizione un bene del partito che non è pubblico ma privato. Sì, anche la casa di Scajola è una casa privata, non è pubblica. Sì, ma il sospetto che sia stata pagata con tangenti e che quindi ci sia un reato di malversazione di denaro pubblico, se mi permette, è diverso. Allora, la macchina del fango sta in questo, ma non è per difendere... Lei fa dei distinguo che secondo me sono eccessivi da un punto di vista politico, dal punto di vista, ripeto, della... E poi c'è un piccolo punto, sì, un piccolo grande punto, che è quello che facevo notare prima a Telese. Quando uno si erge a puro, quando uno si erge a paladino della legalità, qualsiasi schizzo che arriva addosso, e spesso si tratta di schizzi, lei ha ragione su questo, qualsiasi schizzo che viene addosso si allarga a dismisura. È normale che sia così. Quando uno fa una battaglia sulla legalità e poi non dà spiegazioni sufficienti su una vicenda, e non le ha date, e questo lo riconosce anche lei, vero, Eugenio, lo riconosco anch'io. E allora a quel punto... Ma io le chiedo questo, secondo lei i vari La Russa e tutti i colonnelli non sapevano quali erano i rapporti con i Tulliani 2 anni fa? Non sapevano quali problemi eventualmente... Può darsi, può darsi. Le raccomandazioni alla Rai, dice, le presunte raccomandazioni alla Rai. Sulla casa non lo so, sulla casa non lo so. Secondo lei è normale che la compagna del Presidente della Camera e il fratello abbiano appalti con la Rai? Sì, può essere, però stranamente... No, secondo me non è normale. È la prassi comune che gli amici ottengano, amici dei politici ottengano, o conoscenti di politici ottengano appalti dalla Rai. Però come mai il giornale scopre queste cose giusto nel momento in cui Fini fa una scelta politica o di opportunità? No, diciamo che mai? Le cose erano uscite fuori, diciamo l'enfasi sulle vicende di Tulliani come produttore di televisivo sono uscite dopo. Beh, ma nessuno disconosce, caro Questa Eugenio. È la macchina del fango. Ma non è, ma lei fa confusione tra macchina del fango e operazione giornalistico / politico. È una cosa un po' diversa. Guardi, l'operazione giornalistica. La macchina del fango è entrata in azione nella vicenda Boffo, quando c'era un documento palesemente falso che è stato portato all'attenzione dei lettori come se fosse vero. sicuramente, però in questo caso a questo tipo di inchiesta giornalistica si associa la richiesta di dimissioni perché si vuole andare al voto, ovviamente. No, ma questa è una posizione politica legittima, non è mica una bestemmia andare a votare. Adesso è diventato antidemocratico andare a votare. No, chi vuole andare a votare è diventato nemico della democrazia, una cosa ridicola. Però è vero, però in questo paese alla fine, purtroppo ormai ci si è fatti a questo, che non si considera che da una parte c'è un capo industria che ha un grossissimo potere mediatico. Però adesso lei va sul conflitto di interessi, vabbè, d'accordo. E lo so che lei non piace. No, ma ho capito, ma se tutti i discorsi vanno a finire sul conflitto di interessi di Berlusconi, allora è finita. Infatti io lo considero esente da tutto, lo considero immune da tutto. No, però, ma nel senso, se il suo discorso, perché adesso noi ci siamo confrontati anche in maniera civile, no, Eugenio? Sì. Però tutto il suo discorso va a finire, però alla fine quello che conta è che c'è conflitto di interessi di Berlusconi. Dico un'ultima cosa, che non c'entra niente con questo discorso, ma è il mio modesto parere, forse di fantapolitica. Sì. Secondo me, non dietro Fini, perché Fini ha la sua autonomia, ma chi veramente, secondo me, si è stancato di questo governo, di questo modo di non governare, è la Fiat. Perché in che senso? No, non mi tocchi Marchione, che per me è numero uno, mi voglio fare mi sono messo le foto e la statua, adesso mi faccio costruire una statua da qualcuno di Marchione e me la metto davanti. Non è proprio Marchione, è la Fiat Montezemolo, e dietro Montezemolo sicuramente tanti altri imprenditori che hanno capito che la politica fatta dal centrodestra e soprattutto da Berlusconi non ha prodotto nulla a livello di parametri. E dunque che vogliono fare? Il ribaltore? Dietro il possibile terzo polo ci sono gli imprenditori, una parte degli imprenditori. Secondo me sì. Guidati da Montezemolo. Non so se da Montezemolo, però certe scelte della Fiat, anche l'uscita Confindustria, preparano. A parte che non è così, non è che è uscita da Confindustria. Voler decontrattualizzare per avere un po' più le mani libere. Allora? Questa è solo un'idea di quello che ci può essere. Fantapolitica. Però secondo me riassume lo stato attuale del paese. Bene, quindi... grazie Eugenio, grazie. Attilio da Sondrio, ciao. Buonasera. Buonasera, finalmente. Poi Emanuela da Siracusa, questa sera molti interventi sono interessanti, ficcanti. Guarda, il mio è un po' out of topic, nel senso che seguo le tue trasmissioni sempre quando guido la macchina, quindi. E il discorso di Fini sembra quasi essere ormai un po' ritrito, fatto salvo la sua esternazione, dove dà delle spiegazioni peraltro un po' bizzarre, nel senso che di norma gli acquirenti di un appartamento si vanno a cercare nei confinanti, comunque non dall'altra parte del mondo. Però la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è la sparo, la butto lì perché non so. Che è questo rumore? Cos'è questo rumore? Non ho più pallida idea. Eh? Non ne ho più pallida idea. Sentiamo? Casa Gaucci? Pronto? Attilio, un attimo di pazienza, Casa Gaucci a Santo Domingo. Mi sente Attilio? Attilio, mi sente? Sì, sì. Aspettiamo con trepidazione. Anche lei vuole sentire la voce di Gaucci, no? Bienvenido al correo de voz Viva. Niente. Después del tono, su llamada será facturada. Attilio, che vuole fare? Oggi non si riesce a prendere. Oggi non si riesce a parlare con Gaucci. Non c'è niente da fare. No, dicevo, io ho letto sul giornale una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Il fatto che dietro la compravendita ci sia questa offshore che faccia poi capo in qualche maniera ad Atlantis World, che è il leader nella gestione delle slot machine in Italia, sì, no? Sì. Ora è fantascienza. C'è anche gente vicina ad Alleanza Nazionale, l'ex Alleanza Nazionale in tutte queste società. Sì, no? Sì. Però la cosa bizzarra, che a me fa un po' ridere, io sono convinto che per esempio il Superenalotto, questa è la mia convinzione, sia di per sé impossibile da vincere. Quindi quando dicono è 2, 4, 5 mesi che non esce, uno dice vabbè, è strano, cioè, che sia uscito al sesto. E qua è la prima volta, credo, che si sia scoperto un vincitore. Che ora non si sa se sia Gaucci o Elisabetta, perché sono in contenzioso. Però lei che cosa pensa sulle vincite al Superenalotto? No, io penso semplicemente, perché mi piace analizzare un po' le cose a margine, perché ripeto, di quello che ha detto Fini c'è poco da aggiungere, si è chiuso anche la porta in faccia da solo, nel senso, dice non lo so, io ho fatto le cose giuste, sono rimasto male da quello che ha fatto. E allora? Io. No, questa cosa qua potrebbe aprire un filone invece nuovo. Su che cosa? Sulle vincite al Superenalotto? Sì, sì. Cioè, vabbè, Attilio, si sospetta sempre che dietro alcune vincite al Superenalotto in realtà... No, che sia un modo per riciclare del denaro, se non sto parlando di Gaucci naturalmente. Sì, no, io non pensavo a questa cosa. Qualcuno acquista la schedina vincente dai legittimi vincitori e in questo modo fa circolare del denaro. Però insomma, adesso non stiamo parlando in maniera... Certo, fantascientifica. No, stiamo parlando senza un riferimento ad una vincita particolare. Va bene, Attilio, la ringrazio anche perché sentiamo male. Gabriele da Bologna, anzi no, Emanuele da Siracusa prima. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Mi sente? La sento, dica. Semplicemente un contributo da parte mia sul tema Fini e semplicemente un altro punto di vista. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che quando ci si erge a paladini del purismo bisogna essere assolutamente preparati e quindi si corre il rischio poi di pagare le conseguenze. In ogni caso, comunque, come cittadino italiano a me interessa molto e accolgo con favore che ci sia una componente politica che si sia preso l'impegno in questo momento di migliorare l'attività legislativa del Parlamento, di migliorare l'attività di governo. Da questo punto di vista non posso che accogliere con piacere l'impegno, diciamo, che ha preso Fini. Quindi è vero che in questo contesto bisogna stare molto attenti al concetto, diciamo, di moralismo e di etica. Però c'è anche da dire che in un contesto nel quale la vicenda non assume toni particolarmente gravi, c'è dall'altra parte l'impegno di migliorare un'attività, diciamo, di governo, o anche, è una cosa un po' strana. Non ho capito, chi è che vorrebbe, scusi un attimo, Emanuele, chi è che vuole migliorare e controllare l'attività di governo? Cioè, secondo lei l'obiettivo dei finiani è questo? Se noi restiamo alla dichiarazione dei politici, siamo freschi, insomma. Cioè, secondo lei l'obiettivo dei Finiani è quello di migliorare l'attività di governo e di controllare l'attività del governo nel senso, di una maggiore, cosa, legalità? Le proposte, diciamo, di legge che verranno avanzate sì. sono conformi, diciamo, all'interesse. Sì, ma queste sono chiacchiere, Emanuele, sono chiacchiere. Quando qualcuno sostiene bisogna attenersi al programma, è evidente che non ha senso, perché ognuno il programma lo stiracchia come vuole. Abbiamo 30 secondi di pausa, torniamo subito. La Zanzara. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti alla Giostra sul 2. Io non sono solo, ho il piacere di avere questa meravigliosa creatura che si chiama Miranda. Buongiorno, Valerio. Miranda. Buongiorno, caro Valerio. Valerio, ho conosciuto un pezzo. Ed è con noi qui alla Zanzara Valerio Merola, dopo 10 anni conduce un programma sulla Rai. Buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Bene, direi molto bene, perché come ha ricordato sono tornato alla conduzione, che è il mio primo amore. Io nasco presentatore da tanti anni. In una televisione romana, GBR, lei esordì tanti anni fa, no? Sì, tanti anni fa, e fui notato in questa televisione dove ho fatto la vera gavetta televisiva, fui notato da Tipo Baudo, che mi chiamò per Rai 1 a fare immediatamente Fantastico 5 nell'85, quindi un salto notevole. La Giostra sul 2 ogni giorno su Rai 2, tranne il sabato alle 11.30 di mattina per tutta l'estate, e forse magari una conduzione anche in autunno, non sappiamo. Però Merola, innanzitutto ci vuole far scoprire una cosa, ci vuole chiarire una volta per tutte la sua età, perché so che lei è piuttosto refrattario su questo punto, come se fosse una signora, insomma. Ma io, guardi, proprio lo ammetto e mi dispiace, ma non potrò essere esaustivo neanche con lei, insomma, un vezzo bisogna pure averlo. No, per carità. E io ce l'ho, insomma, consentitemi questo. No, perché Wikipedia e alcuni siti riferiscono 1955. Dunque lei avrebbe in questo caso 55 anni. 55. Potrebbe essere. Vedendomi in televisione c'è chi me ne dà di meno, e allora capisce bene che io cerco di appoggiare questi ultimi. Senta, insomma, non c'è dubbio. Poi insomma non se li porta male in realtà, no? Se fossero 55. Grazie. Senta Merola, ma un'altra cosa, insomma, lei so che questo discorso non le piace, però in un'intervista a Vanity Fair lei chiese addirittura se era possibile non mettere nel titolo la parola Merolone, Vogliamo sentire questa cosa? Sentiamola. Ma sì, un attimo solo, Merola, un attimo. Allora, la cosa che l'ho detta anche al direttore, preciso nella registrazione, che non ci sia nel titolo, nel sottotitolo, la parola Merolone. Ecco, diciamo che la giornalista si prende l'impegno con questa registrazione. Però nell'articolo ci sarà. Dentro l'articolo. Poi com'è finita con Vanity Fair, Merola? L'hanno messo? È se ne sono finita con un titolo ironico, molto simpatico, meglio One che Ino. Meglio Merolone che Merolino. No, One. Meglio One che Ino. Era meglio One che Ino. Ah, ecco, compromesso dunque, grande compromesso. Perché lei non esatto. Ha... Ma insomma, lei alla fine un po' su questa cosa qua, ormai se ne frega di questa cosa qua del Merolone, no? Guardi, io ci ho giocato su fin dai tempi in cui 13 anni fa è uscita questo nomignolo, come era giusto che facessi, perché parliamo ovviamente di un fatto che va preso soltanto con ironia. Ormai con ironia, all'epoca insomma ormai, lei passò, ecco. Passò dei guai naturalmente per una vicenda che viene soprannominata oggi come la prima Vallettopoli, lei fu accusato, poi la vicenda fu archiviata dal punto di vista giudiziario, diciamo, di aver ottenuto dei favori sessuali in cambio di lavori, diciamo. No, questa fu l'accusa. Sì, questa fu la tesi che era sostenuta dall'accusa, che però fu smontata completamente perché infondata, non si arrivò al processo, ci fu l'archiviazione totale di tutto il procedimento e sia io che, ahimè, il povero Sabani e Boncompagni fummo totalmente scagionati senza, ripeto, neanche arrivare al processo. Quindi si trattava di un'inchiesta infondata. Questo purtroppo sui giornali, alla radio, in televisione, passò poco, sì, però approfitto per ricordarlo. No, quindi, ma noi lo vogliamo ricordare, noi lo vogliamo ricordare assolutamente. Grazie. Senta, però alla fine è inutile tornare anche da. E poi la parola Merolone in realtà venne fuori dal suo avvocato all'epoca, no? Sì, però vede. Continuiamo a parlare di una cosa che abbiamo archiviato. No, parliamo di qualcosa di nuovo. E so che non le fa piacere, per carità, ma non ritorno al professionismo. Certo. Ecco, forse è più attuale. Sì, una cosa mi intriga dell'attualità. Lo sa che cosa? La sua amicizia con Renzo Bossi, che noi abbiamo ospitato per ben due volte qui alla Zanzara, una volta facendogli raccontare un po' della sua prima esperienza politica pochi giorni dopo essere entrato al Consiglio regionale della Lombardia, un'altra volta nella sua guida della Nazionale Padania, la sua guida vittoriosa della Nazionale Padana a Malta al campionato del mondo delle nazioni non riconosciute. Insomma, lei si picca, si vanta di essere amico di Renzo Bossi. Da quanto tempo? Non è assolutamente esatto che mi picco, mi vanto. Ma no, mi picco in senso positivo. Assolutamente non è il termine esatto. Io non ho mai detto che non sono amico. Ho confermato con piacere e che sono onorato di essere amico di un ragazzo pulito, dai sani principi, che non fuma, non beve, non si droga e con il quale condivido alcune passioni come lo sport, la passione per le auto sportive. Guardi, che io questo volevo dire, quando ho detto si picca, eccetera. No, questo lo confermo. Senta, 100%. Dicono alla RAI, non so se siano malelingue o meno, lei lo smentirà naturalmente, che lei è tornato a condurre anche per merito di questa amicizia. Infatti, guardi, l'ho letta anch'io, l'ho sentita anch'io questa voce e mi sono fatto tante di quelle risate che ancora sto ridendo. Il programma con il quale io sono rientrato in RAI, La Giostra sul 2, è patrocinato dalla regione Calabria. Più meridione di così non si potrebbe, quindi si figuri lei come potrei essere stato appoggiato da Renzo Bossi. Vabbè, questo non sa, questo, il fatto che sia sponsorizzato la Regione Calabria non rileverebbe, ma non è poi mica un'indegnità essere, diciamo, sponsorizzati da Renzo Bossi e dalla Lega. La Lega è un partito come gli altri che ogni tanto in Rai piazza i suoi, tra virgolette, uomini. Non voglio dire che lei sia un uomo della Lega, per carità, però so in queste cose. Non sono stato piazzato da nessuno, ho aspettato molti anni per questo, credo, giusto riscatto, non ho raccomandazioni, ho soltanto il mio professionismo e il mio lavoro, finora erano stati messi da parte, finalmente un direttore della RAI, esattamente della RAI 2, si è accorto che era il caso magari di dare anche uno spazio, una possibilità a chi, ripeto, è solo un professionista serio, preparato di questo lavoro, invece di dare il microfono in mano ad un superstite del Grande Fratello o a un tronista uscito da una trasmissione di Pettegolezzi. Dunque, diciamo, la sua amicizia con Renzo Bossi... Salutiamo con simpatia a chi finalmente... dà spazio al professionismo, questa mi sembra la notizia. Senta, ma dunque la sua amicizia con Renzo Bossi non rileva dal punto di vista lavorativo, diciamo, è un'amicizia. Quando l'ha conosciuto lei Bossi? Sono tantissimi anni, io ho presentato la prima edizione di Miss Padania in una bellissima serata in provincia di Brescia tanti anni. Mi scusi. Prego, non si preoccupi. Vede, questa è l'aria condizionata tra della RAI, l'aria condizionata della RAI. Miss Padania è stata l'occasione che ci ha fatto conoscere. Quanti anni fa? Perché Bossi è giovane, lei insomma adesso non sappiamo che età abbia, però c'è una bella differenza di età. C'è una grande differenza di età, però ci siamo continuati a sentire, a frequentare, quando è diventato sempre più giovane di me, ma insomma un giovane uomo, non più un bambino come era quando io l'ho conosciuto, abbiamo continuato a frequentarci e felicemente siamo amici. Ma amici che vuol dire? Vi frequentate? Cioè vi frequentate, vi vedete con amici? Compatibilmente con gli impegni reciproci, che non sono pochi, poi io non vivo in Italia, io vivo all'estero, quindi... Dove vive? Dove vive? Io vivo a Monte Carlo da 20 anni. A Monte Carlo, nella famosa Monte Carlo di cui si parla in questi giorni. Sì, se ne parla. Quanto costano gli appartamenti a Monte Carlo, Merola? Ah, guardi, non meno di 30.000 euro al metro quadro, questo proprio... Anche nella zona dove assolutamente noto. Anche nella zona dove abita il cognato di Fini? Io non abito in quella zona, ma comunque il Principato sono 2 chilometri quadrati, quindi sa, c'è poca differenza da una zona all'altra, è come un quartiere piccolo di Roma, quindi non è che si possa stabilire una differenza da quartiere a quartiere, più bello, meno bello, più elegante, meno elegante. È un fazzoletto di terra dove, per tutta una serie di motivi, il mercato immobiliare ha una quotazione elevatissima. Senta, da qualche parte ho letto, lei considera Bossi, Renzo, Bossi Junior, il leader del futuro, addirittura. Questo mi sembra un po' esagerato, Merola, no? Io ho dichiarato, e lo confermo, che penso che il futuro Umberto Bossi sia Renzo Bossi. Cioè, il babbo ha non a caso investito il figlio Renzo di questa eredità, lo ha dichiarato anche lui, credo che non abbia sbagliato, perché al di là, ripeto, adesso è giovane, si deve ancora formare sicuramente, deve fare ancora molta esperienza, ma secondo me ha la stoffa del leader, quindi credo che il babbo non abbia visto assolutamente male. Ma leader lei dice solo della Lega oppure leader diciamo a livello nazionale? Leader politico della Lega, che è una forza politica a livello nazionale, perché si può votare Lega non soltanto a Milano. Cioè lei lo vede come leader del futuro, in grado di subentrare sicuramente al padre, di... No, di... Io trovo in lui la stoffa del leader, poi... Ma qual è la sua caratteristica principale, diciamo, dov'è che la riconosce questa stoffa? Parla, è molto comunicatore e sa parlare alla gente. Io ho organizzato... Poi se lo dice lei, insomma. Sì, io diciamo, ho fatto della comunicazione la mia professione, quindi ritengo che un minimo di competenza ce l'abbia in questo senso, quindi penso che... sia la sua dote migliore, sa parlare con la gente, sa ascoltare la gente e sa prendere la fiducia della gente, non a caso è stato votatissimo quando si è presentato alle elezioni. Valerio Merola è con noi, le chiedo 2 minuti, mandiamo in onda un paio di titoli dei telegiornali di questa sera, poi un'altra domanda perché sono un po' gossiparo questa sera, Merola. Lei ha dichiarato da qualche parte, ha ricordato un suo fidanzamento addirittura con l'attuale direttore del TG3, la Berlinguer. Beh, vedo che lei continua a parlare del passato. Ma vabbè, adesso alterniamo presente a passato. Va bene, va bene. A tra poco, 800 24 00 24. Bene, siamo sulla Zanzara, Radio 24, è con noi Valerio Merola in collegamento dalla RAI, 800 24 00 24. Prima però sentiamo i titoli della setta. I finiani fanno quadrato contro le richieste di dimissioni del Presidente della Camera, che arrivano da diversi esponenti delle PDL. Si aprirebbe una crisi istituzionale gravissima, avverte Bocchino, serve un vertice di maggioranza. Il direttore di Libero, Belpietro, in campo perché Gianfranco Fini lasci la presidenza di Montecitorio. Peter Gomez, firma del Fatto Quotidiano, la pensa all'opposto. Prima di Fini, dice, dovrebbe lasciare Berlusconi. C'è anche un italiano tra le 180 vittime delle inondazioni in alta montagna al confine tra India e Pakistan. Ci sarebbero molti altri italiani ancora in attesa di soccorsi, bloccati dal fango ad oltre 4.000 metri di quota. Violento ed incapace di contenere i propri istinti, per il GIP Oleg Fedchenko, che ha ucciso venerdì a Milano una filippina incontrata per caso, è come una bomba che può esplodere alla minima provocazione. Agli europei di Budapest, Tania Cagnotto vince la prima gara dei tuffi, oro nel trampolino da un metro. Ora l'atleta azzurra spera nel bis nella gara da tre e intanto sogna una medaglia olimpica. Da 2 anni nessuno teneva il suo passo su 100 e 200 metri, ora dopo una inattesa sconfitta nell'esordio di stagione, il giamaicano Bolt annuncia un mal di schiena, tornerò a correre l'anno prossimo. Allora Merola, ce lo possiamo dire tra noi, caro Merola. Da Zanzara a Zanzara. Da Zanzara. Perché uno va a abitare a Monte Carlo, me lo dica? Cioè, perché guardi, è molto semplice, sempre per la serie che i luoghi comuni, esatto, ci sfati questo luogo comune di Monte Carlo. Ecco, cioè, subito, cioè, perché non si pagano le tasse? Allora, a Monte Carlo si pagano le tasse esattamente come in altri paesi. Ci sono ovviamente dei regimi fiscali diversi, ma io pago le tasse a Monte Carlo come tutti quelli che lavorano e hanno un'attività a Monte Carlo o all'estero e sono residenti monegaschi. Quindi è assolutamente una falsità. Diciamo, si pagheranno tasse a un livello più basso, questo è evidente, no? Ci sono ovviamente una fiscalità diversa, però nel luogo comune Monte Carlo non si pagano le tasse, non è vero. Senta, ma lei perché vent'anni fa decise di andare a Monte Carlo, così per curiosità? Io sono solo, non sono sposato, non ho figli e purtroppo avevo perso i miei, ed ero molto amico in quegli anni del povero Stefano Casiraghi, che divideva con me la passione per le corse offshore. Avevamo entrambi questa passione. E è vero che lei ha tante macchine a Monte Carlo? Perché appunto io ero solo, lui mi disse: ma perché non vieni a Monte Carlo, così possiamo stare più insieme, più vicini per coltivare questa passione, e io accettai e da quel giorno risiedo lì. È vero che lei ha tantissime macchine, la passione delle macchine? Sì, ho la passione delle macchine, è una mia che non è un delitto da tanti anni. Prego? No, dico che non è un delitto, naturalmente, per carità. No, direi proprio di no. Senta, questa storia della Berlinguer me la racconti, perché insomma per carità, adesso anche qui luoghi comuni, no? Sembrano due personaggi un po' agli antipodi, no? Valerio Merola, che è un presentatore televisivo, e da una parte, no? Una figura così austera come quella così che si vede adesso, quella di Bianca Berlinguer. Quando vi siete conosciuti? Ma guardi, anche questo, ripeto, appartiene al passato, parliamo di tanti anni fa, però io volentieri rispondo, come faccio sempre quando mi viene chiesta questa cosa, di appunto ricorrere nelle domande, perché capisco che è un fatto, come dice lei, gossiparo, che può attirare. Io ho avuto, non l'ho mai smentito perché non c'era niente di male, ho avuto questo flirt in età giovanile, un flirt molto breve che non ha avuto nessun tipo di seguito da entrambe le parti. Ho un bellissimo ricordo e lo conservo come tale, senza, diciamo, nessun tipo di altro aspetto della vicenda. Stiamo parlando di quanti anni fa? Più di 20, 25, siamo proprio a molti molti anni fa. Senta, un'ultima cosa. Adolescenziale. Amore adolescenziale. Durato poco, naturalmente. Sì, pochissimo. Senta, Merola, per concludere, lei non pensa, siccome non è la stessa cosa, non voglio paragonare nulla, lei ha adesso sta avendo un'altra chance, diciamo, no? come conduttore. Dopo quello che è successo, dopo un ostracismo che è durato e che forse dura anche adesso, qualcuno si opponeva, no, al fatto che lei tornasse alla Rai o no? Beh, diciamo che non tutti, diciamo, c'è stata qualche voce, sì, come ho detto, non proprio entusiasta, qualche che dicevano, diciamo, proprio quello per, perché, ecco, come le dicevo all'inizio, questa società bisogna farsi perdonare anche le ingiustizie. Qualcuno così ha detto: ma proprio Merola, perché Merola in fondo ha avuto quella storia? Come? Proprio uno che ha avuto una storia, ha vissuto un'ingiustizia grave sulla sua pelle, dovrebbe avere ancora più diritto ad un riscatto. E invece c'è chi, sulla base, ripeto, di questo finto perbenismo, si permette di fare anche qualche appunto. Però ognuno la pensa come vuole, io lascio libero arbitro a chiunque, però per fortuna, diciamo, la trasmissione mi è stata affidata, è partita, sta andando anche bene, la giostra sul 2, con tutte le difficoltà, il mese di agosto, un orario la mattina che non è certo un orario... Non c'è dubbio, non è meraviglioso, insomma, certo. Ecco, insomma, quindi voglio dire, un programma che non costa un euro alla Rai, quindi io mi sono assolutamente adeguato al periodo difficile della crisi economica, sono un perfetto target, non ha speso nulla la Rai, ha un programma vero, un contenitore estivo che sta avendo anche un discreto successo, grazie a Dio, e quindi penso che questa chance che mi è stata data, in qualche modo, penso di essermela meritata. Sento, un'ultimissima cosa, poi la lascio, ed è questa, ma... adesso mi è sfuggita mentre stava parlando, sono due giorni che mi capitano queste cose, che devo fare? Se la deve ricordare, se no poi lei rimane col dubbio. No, rimango col dubbio, rimango, questa domanda mi rimango col dubbio lì con questo con questo tarlo, perché poi penso a 100 cose in contemporanea e niente succede. Vabbè, la lascio così, però insomma mi può sempre richiamare, insomma, Rai 2, il mio programma va in onda fino a settembre, tutti i giorni, e dopo questo lo abbiamo già detto, insomma, e dopo magari lei, no, ma mi perdoni, ho approfittato per farmi un po' di pubblicità. No, ma lo so, insomma, è comprensibile, e il fatto che lei lo ammette in maniera così trasparente la rende molto simpatico. Grazie, buona serata. Molto simpatico. Qualunque momento mi è venuto in mente, ma il sindaco della Lega che vieta a Morgan di cantare nella sua città, mi dica una cosa, Merola a favore di Morgan? Guardi, io sono a favore di tutti gli artisti, assolutamente. Non è sbagliato, non è sbagliato quello che ha detto Tosi, siccome ha dato... Sono contrario assolutamente al mille per mille ad ogni tipo di droghe, all'alcol e a tutto ciò. Che lei non fuma, non beve, niente. Anche rispetto, mi dispiace, diciamo, quando una persona entra in quel problema che non mi appartiene, e diciamo rispetto però le opinioni di tutti, anche il sindaco Zaia, il sindaco Tosi, ha diritto ad esprimere il suo pensiero su questa vicenda. Ho capito, ha diritto, e lei che ne pensa, che abbia sbagliato oppure no? Ma guardi, io non mi occupo delle decisioni degli altri, non voglio essere reticente, però io rispondo delle mie decisioni, quindi su questa vicenda diciamo che non ho un'opinione. Mi è un po' diplomatico su questo, su questo mi è un po' diplomatico, mi è un po' diplomatico, vabbè. Grazie, buona serata, 20:09, pubblicità, torniamo tra un attimo, 30 secondi. Eccoci, 20:10, 800 24 00 24, Angelo da Olbia, buonasera. Buonasera. Dica. È tornato anche il Merolone, Merola. Tornano tutti. Il mitico Merolone. Io vorrei discutere con lei del fatto del giorno, cioè di che cosa stiamo parlando quando contestiamo a Fini di aver alienato un bene che è di un'associazione privata, un'associazione partitica, secondo i canoni di quell'associazione, avendoci guadagnato, oppure no, non lo so, ma in ogni caso... Avendoci guadagnato non c'è dubbio, perché naturalmente era un lascito, bisogna vedere se il prezzo era congruo a quello di mercato oppure è stato ceduto ad un prezzo di favore a qualcuno interessato. Il maggiore rispetto a quello di Libro, noi dobbiamo fare i conti. Sì, però Angelo, adesso non ci nascondiamo dietro le cifre ufficiali. Come ha sentito pure da Merola, che è disinteressata a questa vicenda e che abita a Monte Carlo, i prezzi degli immobili a Monte Carlo sono nettamente superiori al prezzo di vendita di quell'immobile. Su questo non ci sono dubbi. Poi sarà eccessivo il prezzo che è stato indicato da alcuni, 25-30 mila euro al metro quadro, non lo so. Convengo con lei su questo aspetto. Poi, ma per carità, i partiti... Che la Procura della Repubblica indaghi su un aspetto che riguarda un'associazione... No, secondo me l'indagine dei magistrati non ha senso. Io lo dico sempre e lo ribadisco in questo caso. Non capisco qual è l'interesse dei magistrati ad aprire un'indagine. Sì, certo, c'è stata una denuncia da parte di alcuni militanti della destra. Però, insomma, ripeto, Angelo, anch'io trovo che l'indagine della magistratura... Seconda parte è questa. Io credo che dietro questo fatto, che può essere un fatto singolare, che non è molto diverso dalla delle gestioni che i partiti e le organizzazioni hanno, le associazioni hanno del loro patrimonio, ci sia un dato politico che fa coincidere l'attenzione di alcuni giornali su questo aspetto con la fase politica che vede Fini lasciare, diciamo, il popolo del... Però mi scusi Angelo, ma qual è il problema in una cosa di questo tipo? Non capisco perché le fasi politiche o l'operazione politica viene attribuita a giornali, diciamo, di area di centrodestra, e quando invece si tratta di inchieste che riguardano Berlusconi, in cui i giornali più vicini, diciamo, all'opposizione fanno inchieste... È un altro discorso. Si tratta di inchieste democratiche, di inchieste fantastiche, di grande lavoro giornalistico, eccetera, eccetera. Il fatto che un partito alieni un bene ad una società non meglio definita e che poi occasionalmente questo bene venga riaffittato al cognato di Fini è un grande scoop giornalistico. Beh, certo che è uno scoop giornalistico. Angelo, per lei non sarà uno scoop giornalistico, ma è stato riconosciuto essere uno scoop giornalistico. Io ho capito. E poi se vogliamo fare una classifica, può essere uno scoop interrogatorie. Un presidente del Senato che è stato giudicato perché... Che c'entra il Presidente del Senato? Mi scusi, cosa c'entra adesso il Presidente del Senato? Cioè, io le sto facendo il caso di tutte le cariche pubbliche, escluse il Presidente Napolitano. Ho capito, ma qual è? Ma non capisco questo benaltrismo. Siccome ci sono cose che riguardano... Oggi il Fatto Quotidiano titola da quale pulpito vengono le accuse, ripetendo tutti i reati di cui sono stati accusati o condannati esponenti del centrodestra. Secondo lei, questa vicenda è sufficiente per chiedere le dimissioni del Presidente della Camera? Guardi, uguale a quella del ministro Scajola? Secondo me no, per questo motivo. Se vuole sapere la mia opinione, io non sono pregiudizialmente antifiniano. La mia opinione è che quando si realizza una situazione di questo tipo, in cui il Presidente della Camera è a capo di un partito politico che rompe con la coalizione, perché di questo si tratta, la coalizione a cui appartiene, perché alla fine, insomma, senza nasconderci dietro le parole, di questo si tratta, e dunque fa politica attiva quotidiana o lui o le persone che sono vicine a lui, io credo che le dimissioni siano una cosa normale. D'altra parte, guardi, prima, quando Della Vedova è intervenuto da noi, ha detto: se non ci fosse tutta questa campagna mediatica contro Fini, in realtà la questione sarebbe sul tappeto, la questione delle dimissioni di Fini, perché è una situazione nuova. Lei ha mai visto una situazione in cui il Presidente della Camera forma un nuovo partito, in sostanza, e poi rimane Presidente della Camera? Stavo chiedendo il presidente Bertinotti. Il presidente di un partito. Ho capito, ma la legislatura durava pochissimo, un anno e mezzo. Ho capito. Era presidente di un partito, certo, ma il partito sin dall'inizio è stato eletto alla Camera come quando era segretario di Rifondazione Comunista, certo. La situazione è rimasta tale anche dopo un anno e mezzo. Quindi quello che fa venire meno il rapporto alla terzietà di Fini come terza carica dello Stato è il fatto che abbia abbandonato il Popolo in Libertà. No, ma non è questo, Angelo, non è questo. Pure poteva anche... Se uno crea un movimento politico nuovo, se uno crea e fa politica quotidiana, perché di questo si tratta, lui o i suoi uomini, io credo che non è che si perda la terzietà nella conduzione quotidiana della Camera. Ci sono situazioni completamente nuove, o no? No, sì, e no, nel senso che a meno che lei non mi porti su un terreno di discorso per cui quelle cose che dice Fini, che sono cose, per carità, io non sono un detrattore di Fini, ma di una banalità lampante, la legalità, cioè, voglio dire, ma vogliamo dire che è eversiva dell'ordine costituzionale? Ma no, ma chi ha detto che è eversiva, Angelo? Chi ha detto che è eversiva? Secondo me è generica, no, non significa nulla la parola legalità, però... Nel senso che è una novità politica stravolgente. Ma no, ma non è quello che dice la novità politica, non è quello che dice. Poi, ripeto, io non sono particolarmente appassionato, lei se ci segue lo può notare facilmente, al dibattito dimissioni sì, dimissioni no. Lo chiedo agli ospiti perché fa parte del dibattito quotidiano all'interno del centrodestra, ma insomma se Fini si dimette o non si dimette, cioè non mi pare un punto... Non mi pare un punto decisivo. Poi io la penso in un certo modo. Penso che se uno fa politica quotidianamente, entra in tutti i temi in discussione e crea addirittura un suo gruppo parlamentare, poi la situazione sia abbastanza incompatibile. Ma non lo dico da antifiniano, lo dico proprio per una situazione che si viene a creare sul terreno abbastanza evidente, secondo me. Traffico. Eccoci, ultimi 11-12 minuti dalla Zanzara di questa sera. 800-24-00-24 per chiamarci in diretta. Casa Gaucci, vogliamo riprovare ancora proprio l'ultimo tentativo in extremis, l'ultimo tentativo alla disperata con Casa Gaucci a Santo Domingo. Evidentemente Gaucci a quest'ora, perché anche ieri sera era così, a quest'ora scompare da Santo Domingo, dalla sua casa a Santo Domingo, andrà al mare forse insieme a Enrico Lucci, non lo so. Eccolo qua, Casa Gaucci, Santo Domingo. Bienvenido al correo de voz. Viva. Niente da fare. Después del tono, tu llamada será facturada. Segreteria telefonica, non lasciamo messaggi. Riproviamo a casa Gaucci. Voglio riprovare! Gaucci prima o poi verrà. Eravamo d'accordo, Gaucci, eravamo d'accordo. Stracquadani, eravamo d'accordo con Gaucci. Che devo fare? Mi dica lei. E chi ha trovato solo me? No. Eccolo qua. Casa Gaucci. Lucianone, rispondi! Benvenuto al correo di Voz Viva. Niente. Después del tono, tu llamada niente da fare, fatturata. Niente da fare. Danilo da Monte Carlo. Buonasera, Danilo. Buonasera. Dica. Ho sentito parlare questi giorni di Monaco, di prezzi di immobili, tasse nel Principato, eccetera. Sì. Io abitavo al 20 di Boulevard Princess Charlotte. Oh, caro anni. Danilo, lei abitava al 20 di Boulevard, ci ricordo? Princess Charlotte. Sono stato 6 anni, un appartamento di 75 metri quadrati. Dunque, la casa di dove abita adesso Giancarlo Turiani è al 14, se non sbaglio? Al 14, sì, proprio sì. Due appartamenti. Allora, c'è Danilo, lei innanzitutto da dove ci chiama? Adesso da dove ci chiama? Sono in autostrada che sto tornando a casa. Sta tornando a Monte Carlo? Sì. Lei abita a Monte Carlo? Io abito a Monte Carlo da 10 anni. Ancora al 20 là di Boulevard Princess Charlotte? No, mi sono spostato, 50 metri più in là. Stracquadanio, ci sente? Buonasera. Eccoci qui. Ci ha chiamato un ascoltatore, sì. Danilo da Monte Carlo, che abita da 10 anni, abitato per 10 anni, se non sbaglio, Danilo, al 20 di Boulevard Princess Charlotte. Caro Danilo, sì. Che ci racconta? Io avevo un appartamento di 75 metri quadrati. Sì, in che condizioni era? Quando l'ha preso? Decenti, assolutamente decenti, pulito, sì. In ordine, però non è significativo, è il posto dove sei. A meno che non ci siano le pareti sfondate, qualcuno ha parlato delle scatolette di Simmental, qualcuno, la morte, non so chi ha parlato di scatolette di Simmental per te, vabbè, le scatolette di Simmental si puliscono. Ho capito, però una persona che pulisce può costare 100 euro in un giorno e il giorno dopo hai la casa pulita. E vabbè, lo dice lei, lo volevo dire io, ma insomma. Allora, Danilo? Non è così drammatico. E io nel 2000 pagavo 3.500 euro al mese d'affitto. Ho cercato casa in acquisto dal 2003. No, nel 2000 lei non pagava in euro, diciamo, nel 2000 pagava ancora in lire. No, pagavo l'equivalente, pagavo 6 milioni e 700 mila lire. Ho capito. Dunque? Che è un appartamento di 75 metri quadrati come quello di cui si parla al 14. Sì, più o meno, magari qualcosa in meno. Sì, ma a Monaco comunque i terrazzi vengono considerati come area vivibile. Sì. Quindi quando dicono 100 metri quadrati, se sono 50 di terrazzo, sono 100. E non ha mai provato ad acquistare lei? O comunque Ma il problema è che io ho provato ad acquistare. Quindi il mercato immobiliare lo conosco bene perché la mia formazione è da ingegnere. Io mi sono messo metodicamente a prendere tutte le offerte immobiliari e le ho messe su un database per fare valutazioni comparate. Addirittura? Sì, sì. io sono molto metodico. Nel 2008, per esempio, si ricorda... 30.000 euro al metro quadrato. 30.000 euro al metro quadrato, addirittura. Tranquillo, ma non è che lo dico io, basta andare sul sito... No, no, ma l'abbiamo letto in questi giorni. E ci sono, basta vedere, sono tutti i prezzi sono in quell'intorno. Non è che ma fino a quando ha abitato lei al 20 di Boulevard Prince Faisal Charlotte? Fino al 2006, adesso sono... Ma faccio conto 150 metri più in giù. Per cui più o meno da quelle parti. Sì, sì, ma poi... Dunque, lei quando ha letto quella cifra là, no? 300.000 euro, cosa ha pensato? Che fosse un prezzo di favore, un prezzo di favore per qualcuno? Subito, gli do 600 subito, senza vedere l'appartamento. Gliene avrebbe dati 600 subito. Ma neanche vederlo l'appartamento. Ma lei che lavoro fa, Danilo? Mi scusi. Faccio l'imprenditore. L'imprenditore. Sono venuto via dall'Italia nel 2000 per motivi evidentemente fiscali, ma non per evasione, semplicemente perché... Non pagavo, non ci sono le tasse per sua persona. Vabbè, per pagare meno tasse, Danilo. Poi sì, se uno segue le regole, abita a Monte Carlo fin quando deve stare a Monte Carlo. Se uno... Io ho fatto più per meno diviso, alla fine mi è risultato che mi costava meno stare là e pagare un affitto alto che stare in Italia e pagare tasse. Ho capito. Ma Tulliani l'ha visto in giro a Monte Carlo? No, onestamente io lavoro tanto e giro poco, per cui non ha che... tempo da perdere, diciamo. No, soltanto che sento dire che una casa messa a bilancio a 450.000 euro, a 300.000 euro, quanto sia? Milioni, mi scappa da ridere. Neanche uno studio di 15 metri quadrati si paga quella cifra. Vabbè, Danilo, resti qua. Giorgio Stracquadanio, Predellino, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Allora, che succede, Stracquadanio? Perché ci ha chiamato? Che è l'aspetto più rilevante che gli ascoltatori che oggi sono intervenuti hanno detto... non essere così significativo da richiedere le dimissioni del Presidente della Camera, è un altro a mio avviso, ed è quello che riguarda le presunte pressioni per far lavorare alla RAI, di alla famiglia RAI. In RAI. Però questa non è una novità che un politico faccia pressioni per far lavorare qualcuno alla RAI, diciamo la verità. Mi perdoni due cose, due osservazioni. La prima osservazione, il Presidente della Camera è sullo stato di famiglia della famiglia Tulliani e quindi fa lavorare la suocera, che non è la suocera, come facesse lavorare la mamma, che non è provato però sorella, ancora, che non è provato ancora, cioè nel senso che essere lui sullo stato di famiglia, no, lo stato di famiglia sì, che abbia lui fatto pressioni, che abbia fatto pressioni per far lavorare Giancarlo Tulliani, lui non ha smentito quello che Bechis ha scritto, sì, questo è vero, libero. Questo è vero, non l'ha smentito da tre giorni, sì. E Guido Paglia nemmeno lo ha smentito, Guido Paglia sarebbe stato il destinatario delle pressioni, lo ha confermato, anzi lo ha avvalorato. E non solo, ma l'aspetto poi più significativo è questo. Giancarlo Tulliani pare essere produttore televisivo, sì, ma nessuno conosce le sue produzioni televisive all'estero. E allora la sua residenza fiscale a Monte Carlo, da che cosa è stata stabilita e in che modo è stata stabilita? Vabbè, è andato a abitare a Monte Carlo perché... E deve avere un'attività prevalente a Monte Carlo. Ma questo se ne occuperà il fisco di questo. E trascorrere lì, no, mi aspetti, trascorrere lì almeno 180 giorni più uno. Certo, questo ripeto, è una cosa di cui si occuperà il fisco. Cosa di cui non abbiamo nessuna contezza. Perché abbiamo una società di produzione televisiva che nasce nel 2009. Sì. E ecco, e ha subito un contratto senza entrare nel registro fornitore della RAI. Vabbè, questo è un altro discorso, però che c'entra con la residenza di Monte Carlo di Stelle di che di Giancarlo fosse come quella di Pavarotti? Vabbè, questo però ripeto. Una residenza finalizzata a una evasione fiscale. Però Stracquadanio, ripeto, allora, di queste cose si occupa il fisco. Perfetto. Allora il punto chiave che su queste cose va fatta chiarezza, perché il parente stretto del Presidente della Camera, che stanno nella stessa famiglia, cioè come se fossero la stessa cosa, potrebbe essere titolare di una residenza fiscale fittizia e addirittura di una proprietà fittizia dell'appartamento. Allora, per uno che brandisce la bandiera della legalità, non basta quel comunicato in 8 punti. Vabbè, questo per giustificare la sua permanenza a Presidente della Camera e anche per dire non mi faranno venire meno dalla mia battaglia, perché forse la battaglia deve combatterla allo specchio. Senta, Stracquadanio, però io voglio chiederle una cosa, già da un paio di giorni, da 2 o 3 giorni volevo chiedergliela. Prego. Sulla vicenda del metodo Boffo, lei è stato attaccato da un sacco di gente, anche da giornali cattolici, da esponenti del mondo cattolico, eccetera, eccetera, perché poi ha ritirato fuori la vicenda Boffo. Lei poi ha detto è stata una provocazione quello che ho voluto fare, però rimane un po' la sostanza. Poi ormai questa sua frase, stia attento Fini, non mi ricordo guardi, adesso la frase esatta. Guardi, se non avessi pronunciato quella frase trasgressiva per provocare, la parola Monte Carlo avrebbe impiegato una settimana in più per entrare nei telegiornali. No, non è così, non è così, non è così. No, è stato su quello che abbiamo iniziato no, a parlare. No, no, no, non è così, adesso non esageriamo, non è questo, non è così. Lei ha detto questa frase perché poi, per carità, lei è una persona... Io ho avuto una conversazione con Telese e come al solito con Telese, come dire, bisogna stare attenti ai dettagli, perché poi giustamente adesso, lui fa il giornalista. La colpa non è di Telese. No, ho detto che la conversazione è nata con Telese, con Telese bisogna stare attenti perché lui coglie i dettagli, e allora quello che io ho detto, trattamento boffo, intendendo dire non l'aspetto della verità o meno del materiale da cui si parte, che nel caso di Boff è stato riconosciuto essere falso dallo stesso direttore Feltri, sì, ma nel rimproverare il moralismo a chi non è a posto dal punto di vista che era sbagliato anche nel che era sbagliato anche nel caso Boff, una parafrasi era, sì, come dire, vabbè, un fatto però è stato interpretato come insomma adesso arriva la campagna, adesso diciamo delle carte false, adesso tiriamo fuori le carte, tiriamo fuori le carte, sì, un po' sarebbe stato suicida, è vero, sì, sarebbe stato un po' stato suicida, perché sarebbe stato dichiarare che tutto questo che sta emergendo sui giornali sia falso anticipatamente, invece era rimproveriamo i moralisti di essere moralisti quando non sono a posto dal punto di vista loro. È quello che ha detto il presidente del gruppo Cicchitto quando ha detto c'è il giustizialismo che si rovescia intorno ai giustizialisti stessi. Stracquadano, ci sentiamo nei prossimi giorni. Dove vai in vacanza? Dove vai in vacanza? Stracquadano, vai in vacanza lei o no? Se Fini non fosse stato in antagonismo con Berlusconi, la sinistra avrebbe già chiesto e ottenuto la testa di Fini. E invece su questo Berlusconi non lo fa. Su questo no, sono in vacanza, sono in Sicilia. In Sicilia, su questo le do ragione. Se Fini fosse stato ancora nel centrodestra e fosse esplosa la vicenda dalla casa di Monte Carlo, avrebbe chiesto le dimissioni a spada tratta di Fini come una cosa immorale, una vergogna, eccetera. Dalla Sicilia, Stracquadano, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie, buon lavoro. Giuseppe, grazie. Provincia di Bari, buonasera. Buonasera, siamo in chiusura. Danilo, a che punto è? Sta tornando a Monte Carlo? Io sì, sempre in strada. È sempre in strada. Quanto manca a Monte Carlo? È ancora un centinaio di chilometri. Autostrada dei Fiori, scorrevole. Scorrevole oggi, eh? Sì, sì, sì. Ormai la gente è partita in vacanza, eccetera. Scorreva anche nel senso che vanno tutti come matti, eh? Lei è molto simpatico, caro Danilo. Posso sapere, imprenditore in che settore? Così, non voglio entrare nel dettaglio, per carità. Tacchi, dadi e datteri, come si dice a Genova. Come? Faccio un po' di... A Genova si dice tacchi, dadi e datteri per dire uno che fa un po' di tutto. Adesso importo dalla Cina, ho un'agenzia di prodotti solari, di pannelli solari e altri prodotti per energie alternative. Ho trattato in altre epoche computer. Fantastico. Importo, faccio... Vabbè, insomma. Dove c'è business, cerco di metterci. Senta questa canzone. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar sceri a Monte Carlo. E con questo concludiamo. Caro Danilo, la ringrazio di questa telefonata. Figuri. Giuseppe, provincia di Bari, Gabriele da Bologna, mi scusi Giuseppe ma siamo davvero in conclusione, Enzo, provincia di Torino, rimandati se vogliono naturalmente e con un grande abbraccio, a domani alle 18. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.